avanti, avanti, vai allora da quella parte, già mi hai capito dove ti sto mandando. Che hanno mandato la lettera. Sì, ma se non fate il mio versamento a giudizio non vi vengono i ciumi, no, chi sei 100 euro. E detto, sì, non c'è una regola. Da dove è il bambino? Tu guarda come via. Prima controllavano lui, per vedere se lui è in regola, ma poi controllavano pure a te. E vabbè, bene, mi senti in radio che sono con quello piccolino. Se vogliono entrare già siamo qua. Ciao ragazzi. Oi oi. E beh, cosa l'aveva detto a fare? A farti per farti cagare sotto. Che faccia quello che deve fare, no? Aspettare. Già, non si convince poco. Infatti. Vengano. Versamente io l'ho già pagato, tutto a posto. Andrà bene. Bene Meda. E poi il bello che è quello che è disturbo. Sopra la sua antenna c'è la mia. Ed io cazzo non li posso manco una striscia al televisore. Allora, se si mette a posto l'antenna, ridisimi. Ed io vado in giù. Quando vengono a controllarmi gli dico a fare la prova che tolgo i filtri anti TVI a vedere se disturbo. E se non disturbo ma con quelli non ne pongo più. E come si dicendo non ne vedono più televisori, sì. A chi pongo l'umagno ma manetta poco. Ma per me c'è tutto un po' una carità, quello fate di nulla, lo fate ma. Sì, vabbè, io sono sicuro che non lo disturbo con questi due filtri anti TVI, sto scendo con 5 watt, cosa cazzo di giù? Disturbo è perché c'hanno l'antenna messa male loro, se la mettono a posto, io mi sono offerto e si sono rifiutati, il padrone di casa non vuole a toccare l'amplificato, non vuole, vabbè. Io sto usando tutte le precauzioni per non poter, per non disturbare. Poi facciano loro. E infatti, lui chiama, lui ci paga, la sua voce e poi si prende la musica anche perché ha la amplificazione. Ma ce l'ho pure io, deve essere che c'hanno quello cinese l'amplificatore hanno e gli entra tutto dentro, a manetta deve essere che ce l'hanno e di quelli di Mondetta, né? Adesso io ho preso un decoder cinese, ce l'ho ancora, ma è sempre funzionante, sempre va bene, non ha problemi, addirittura da lontano posso cambiare il canale, scusate. Siccome avevo un televisore che non mi andava di buttarlo perché era nuovo, era quello che ho fatto quei punti adesso, lo dico chiaramente, era di quelli ultrafiati, bello, 17 pollici, per la cucina andava benissimo. Quindi ho comprato il decoder, l'ho comprato dai cinesi, a fatto proprio. Sono uscito alla volaccia, quello che andrà di ubbidiare, 30 e qualche cosa l'ho pagato, non è stato ancora andato, ce l'ho per i 3 anni. No, ma l'amplificatore, io sto parlando, sarà qualche cinesata che non serve a nulla, gli entra tutto dentro, boh. Ma è più possibile, faccio due pizzi anche TVA e non sto uscendo più di 5 va. Come cazzo faccio a disturbarli se l'antenna è a posto? Vuol dire che hanno l'antenna messa male, se io ho l'amplificatore nella mia, come mai il mio non lo disturbo che l'antenna mia è sopra la sua, sopra il suo palo? Perché sei coccomane. Ripete pure attimo, se non rispondere alla persona. E tu sei ubriacone pratico. Scusate, ho acceso in questo istante, ho sentito Natalia. Natalia, il discorso è il solito. La colpa è loro, Io non le sarei sbattuto le palle, poi possono alzare le voci, possono fare quello che vogliono. No, dice che hanno chiamato già le scomposte, che hanno mandato la lettera. Ma tra me e me ha pensato, ma se non arriva il versamento da Cagliari non si muovini. Possono mandare la lettera che vogliono, tu ti metti l'omologato, Poi vogliono vedere quando controllano le loro antenne fraciche o la scatoletta fracica. No, che prima controllano a me, io penso. Sono sui canali Rai loro, no? Se io disturbo il furgone la colpa è mia, se io il furgone non lo disturbo la colpa è di loro. Vabbè, ma se tu hai l'omologato, due filtri, a un certo punto non è che puoi fare salti mortali. Buonasera a tutti comunque. C'ho la macchina in divieto perché non dovevamo uscire alle 4, no? Ti è venuta quella stronzaccia della mia parente, capito? Ci uscivamo alle 4, alle 5 eravamo qua, alle 5 escono tutti e trovavamo un posto. Niente, è rimasta fino alle 4 e mezza passate a romperci le palle. Adesso sono in mezzo strada, dove devo affacciarmi ogni tanto, vedere, fare un giro, cercare un posto. Non ce n'è nessuno, né giù, né qua, niente. Per colpa di quella stronza, emerita, capito? Stava alzando le voci in casa nostra anche. Anche perché non la prendi a calci? Mi piacerebbe, guarda. Gianni, dimmi, cosa mi hai detto? Non ti ho capito. È al telefono, Marco, un attimo che è al telefono. No, dai, rispondi. Io non sto cercando una persona. Stavo rispondendo, ed era un po' lunga la frase, ma ti ho detto, aspettate un attimo, mi sto rispondendo. Allora, Marco, io non l'avevo già pensato, quindi se riesco a fare il biglietto, già avevo a fare la ricca. Vabbè, ma c'è tutta una situazione delicata. Mamma mia, io non sopporto più, non mi stavo facendo saltare i nervi oggi proprio. Allora facciamo così, d'ora in poi quando viene lì esco io, Me ne sto fuori, me ne vado in giro, ritorno a casa. Proprio sto arrivando a un livello che non la sopporto, me la stavo pigliando anche con mamma. La mamma già non dice niente, se ne sta tappata in camera, non apre bocca, me la devo sopportare io. Gli insulti, che siamo due dementi, roba del genere. Oh signore, io già lo so. Purtroppo puoi guardare, mi se lo stavo per dire io. Ciao Marco, andiamo da quel posto, metti in atto, ti metti d'accordo con tua madre, come arriva di tenerla in giro. Sì, è fastidiosa proprio, capite? Siccome lì è perfetta, almeno si crede perfetta, ti dice come devi mangiare, come devi cagare, capito? Devi vivere come vive lei, capito? Che si crede perfetta. E infatti siamo stati, mi tocca dire parolacce. Dai, ogni tanto quando non rispondo vuol dire che sono andato a affacciarmi a vedere se si libera un posto. Marco, c'è che non so tutto io, che uno perché ha due soldi in più che pensa di fare ciò che vuole della gente. Questo non l'ha mai sopportato. Avrei preferito rinunciare a ritirare piuttosto che farmi sotto me. Ehi, anch'io. Tu ci fai con dei tasca, come pensate di pagarle le cose, le tasse, le bollette, come abbiamo sempre fatto, ogni mese, se non la potevi pagare un mese, la pagavi il mese prossimo, capito? Lì ne fa una tragedia, ma è matta, sta diventando più matta, adesso che sta invecchiando sta diventando più matta che mai. Tu dici, stavamo aspettando che ci risultasse più i soldi per pagare, lui ti risponde. Ce li dai tu per pagare, se vuoi risolvere il problema ce li dai tu. e signori buoni di bucconi che lucani venite, dopo faccio i polpetti al sugo, se poi aggiungiamo un po' di stricchinina ne avremo pure. Purtroppo mamma non apre bocca, ci ha regalato lo scalabagnetto per la cucina, ma dovevi, ho detto mamma dovevi tirare fuori le palle e dice no, non ci comprare niente, non ci pagare niente, ce lo paghiamo noi casomai. Mamma sta zitta, quindi deve, dobbiamo sottostare, mamma già non si pronuncia, capito? Mamma mia, guarda, è meglio fare il barbone che stare, ah, che stare appresso a, a, a mia zia, meglio fare il barbone sotto i ponti. Perché anche quando viene a fare molta roba ti assedi tutta la sera, capito? Non mangia lì, non devi mangiare tu. Se, se mangia allora, ah, si scoccia, dice, beh, allora faccio tutto io, con quella voce. Sì, proprio non è, non ha, sono al limite, al limite. Oggi già stavo alzando le voci io. Va bene, non ne parliamo, parliamo di altro. Sì, sono andato alla Lidl stasera, ho visto che ci avevano sempre una marea di caricabatterie, quelli piccoli per macchine moto, una marea anche di quelli che hai comprato tu, il tester per la batteria. Ah, le ho viste rosa. Solo che non lo so, io di quelle marche sono prevenuto, non le avrei comprate mai. Io avrei comprato Sony, Philips, però più Sony, preferibilmente Sony. Sono prevenuto, Natalino, non lo so. Non mi fido di quelle cose a livello di audio sonoro, vabbè. Ho visto che hanno la friggitrice, cioè gli arrivo a entrare giovedì la friggitrice. Sai che me la volevo quasi prendere. C'è il cestino, viene meglio a togliere le patate, poi le tiene a una temperatura bassa, non brucia l'olio, perché sennò quando lo bruci in padella poi diventa tossico, capito, lo devi buttare, invece lì almeno due o tre volte ti dura. È interessante, dai, non è mini, perché avevano la mini friggitrice l'altra volta che era 19,90, questa è 29,90, friggitrice elettrica. E dov'è Marco? Vicino a dov'è? Quella mi interessa, vedi, per le patate. Guarda, oggi sono andato e non c'era, c'erano tutte cose elettriche, bistecchiera o cosa era, però quella secondo me arriva giovedì, devo controllare il volantino. No, sai perché in padella è una barbarie stare a pigliare, a inseguire le patate con la, con quella fare per togli, lì viene più bene, capito? Ogni tanto le controlli, le togli con il cestello, le fai scolare e poi le metti nella carta per assorbire l'olio. È una cosa che mi è sempre piaciuta. Naturalmente a mamma c'è sempre da dire, no, non le piace, preferisce la padella, preferisce sporcare tutto, schiacciare tutto l'olio, vabbè. Tanto già non pulisce lei, capito? La cucina, non la pulisce lei. Io ce l'avevo, quella dell'Ughi, bella, che è durata un bel po', e poi mi si è iniziata la resistenza, bellissima era quella che avevo io. Era tonda, era, invece di essere quadrata con i denti quadrati, cioè, ne avevo un cestello grande e tondo, quella che avevo io. Leia, no, queste sono marche Silver Crest, quelle marche che ha Lidl. Oh, è tutta roba fatta in Germania di solito, A meno che quella non sia cinese, boh, bisogna vedere. Appena arriva me la guardo bene, guarda. Se il cestellino delle patate è abbastanza grande potrei prenderla. Però ci penso su, dai. Allora, quasi contemporaneamente alla mini friggitrice, hanno portato una friggitrice che aveva due mini scomparti e ci potevi mettere in uno le patate, nell'altro il pesce, capito, la frittura di mare tipo gli anelli di Tozzano, anche quella era carina. E a quella a due? Ma io la verità, Natalie, o faccio patate o faccio pesce, non faccio due cose assieme. Capito? A me interessa per le patate, a me la frittura di mare, cioè non è che mi piaccia poi tantissimo, perché è raro che venga bella croccante, che si scioglie in bocca, di solito viene gommosa, non lo so, ci vuole un trucco speciale, boh. Vabbè, riprendete voi due che tengo d'occhio la macchina, tengo d'occhio il parcheggio, io mi pigliate voi. Devi prendere i calamari freschi, farli friggere quando sono imbionditi, che sono colore biondo di tutto. Non c'è nessuna... non c'è nessun trucco, è facilissimo fare. Certo che se tu fai calamari congelati, che magari sono duri, sono comuni, non riusciranno mai a essere duri. Bighere, perché c'avevo il microfono attaccato alla stampa e io sono cuffizzato, gatta, però visto se non attacchi la bocca a noi. Sì, passione e anche ogni tanto bisogna inventare, io invento tutto e questo è messo dei buoni piatti. Detto la gente che mi ha mangiato, io sono piaciuto, inventato da me, certe cose, tipo l'insalata d'arancia, cose qua, e poi basta andare su internet, se non c'hai il mentito basta andare su internet e ti dice come fare il piatto per filo e per sì, tu non sai come ti devi mangiare la cosa, andiamo a parire più. Sì, è giusto, io ho fatto le polpette al sugo oggi, una bomba era, e anche per stanotte ho fatto, poi ho fatto la pasta asciutta, via. Io oggi ravioli, ho fatto ravioli con una bistecca bella massiccia di capocollo, un arancio, che ha fatto il lucro. No, ieri, qui la domenica mi metto a cucinare roba pulita, ieri ho fatto anche il cucino, tutte queste cose qua, c'era gente a casa, veramente l'ho fatto per il compleanno di Marco, l'ho fatto per festeggiare a Marco. Grazie, grazie. Non a te, all'altro Marco. Eia, lo so. Quanti anni compie già? 61. Come? 61. No, Marco. Marco, 61. Ah, no, credevo tuo figlio. No, no, Marco l'ho avuto io. Quello che sto parlando io è amico nostro, Marco. Ieri sera non stavo parlando con quel signore lì. Quello è un amico mio di Gianni, che stavamo facendo battute, che Gianni non lo sapeva la fare delle 50 lì. Ehi, ma è un CP anche? No. Parla dal mio barattino quando è a casa. Siccome sa che c'è Natalino e Franco è il suo collega di lavoro, facciamo l'intrumo insieme. Eia. Bene, ho guardato fuori, questa via è una via di infami, non esce mai nessuno, ve ne escano gli occhi, non escono mai, non fanno mai nessuno, tutto pieno di macchine. Certi giorni li vedi dalla mattina fino alla notte, non escono mai. Che ci posso fare? Ho finito anche le bestemmie, non riesco a inventarmi bestemmie nuove. Ma scusa Marco, tu la vuoi far sedere la macchina? Fatti un giro, poi la via Polizzetta, vendila. Non è che devi averla sempre sotto casa, no? È troppo grande. Io mi accontento, quando trovo una foto la metto all'altra la macchina. Perché se quella è una via di infami, questa che via è? Sì, già, ma lo faccio. Pensa a voi e viene ma me. Non c'è un posto qua. Poi sai cos'è, da quando c'era già un bar, hanno aperto un altro bar, è tutto un bar di perditempo, poche parole. E vengono in macchina in tripla, in quadripla fila pure, quadrupla. Invadono di macchine tutto... E lì, insomma, dove svolti, c'è tanto un casino anche passare. Capito? Vabbè, pazienza, tutta colpa di quella lì, è voluta rompere le balle e ce n'è andata alle 5 meno un quarto, abbiamo perso un bel di tempo per lì. Che è? Devi fare capire. attore questo che fa, come Mussolini. Cosa stavo dicendo? Ah, c'è lo spartacchio della chiesa di Mater Ecclesia, la Bonicchi mi ti fa un pezzampino e poi si è fatto lo chiunque, va. Aspetta che c'è Piazza Italia a parcheggiare già. Poi stiamo agli incendi, capito? Perché bruciano macchine, ogni tanto ne escono. Boh, vabbè che se sono addormentato anche soffocato te la bruciano. Non c'è niente da fare. Va bene. E Claudio non è entrato oggi. Vecchio, buonasera, grazie per avermi fatto entrare. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, ciao Natalino. Ciao Marco, grazie per avermi fatto entrare, buonasera a tutti. E come mai sei così educato stasera? A me mi hanno detto che son colorito qua. Gianni, caro Gianni, rimane mai ti dice con scurrile, non faccio mai le orecchie. E io ho breccato, non ci ho fatto tutto io, ma ho breccato. Buonasera! Basta, buonasera. No, io non è che ti ho detto che sei scurrile, scurrile vuol dire che dici parolacce, no? Quello non ho detto, ho detto che tu molte volte non fai il break e dici che se riesci che tu mi hai sgridato perché non ho fatto ascolto. Ma era solo una fatta, non era niente di che. Cosa vi volevo dire? Marco, non è che sia a 100-100 km, no? Da Mater Ecclesia a casa tua c'è due passi. Io tante volte non lo trovo, stamattina sono dovuto andare dall'ortopedico e non l'ho trovata perciò cerca l'ortopedico, l'ho trovata in via Matteotti in parcheggio, la via Matteotti con i piedi come ce li ho dovuto fare nella strada a piedi, piano piano, ma non fatta, se non sono l'ortopedico, tanto la macchina era in parcheggio giusto, tranquillo, nessuno me la poteva prendere. Se te la devono incendiare te la incendiano anche sotto casa, guarda, c'era un periodo che spaccavano i vetri da parte e dietro con quei ciottoli del mare, li tiravano e spaccavano i vetri, avevano fatto tutta la via Valdetta, non c'era una macchina senza un vetro rotto. Mamma mia, non trovarli, cazzo, dagli una sussa, lasciarli mezzi morti a terra. Ciao Claudio. Per esempio, ho visto a metà di via Nizza, no, a metà altezza, no, dove ci sono le macchine, perché ho visto un vetro rotto, un vetro di finestrino, quindi o è un atto vandalico oppure hanno rubato qualcosa da dentro la macchina, da dentro una macchina che non so qual è. Ma qua era da quando c'era l'Origa, no? Tempo addietro, c'era una specchietti rotti, pisciavano sulle macchine, tiravano bottiglie, di tutto di più c'era. Poi adesso si sono calmati, adesso si sono calmati un po', ma prima era una cosa allucinante, atti vandali, rompevano fari dalle mani, tutto, proprio c'era la feccia, venivano da Carbonassi, venivano da Lattidozzi, da Sassaribeccia, tutti qua, perché sai l'Origa chiudeva tipo all'una e mezza di notte, venivano lì a sbronzarsi e a farne di tutto e di più, di tutto e di più. Ma non c'è più adesso? No, c'è, però hanno messo telecamere ovunque qua all'angolo, telecamere ovunque, hanno fatto controlli di polizia, quindi un po' si è calmata la cosa, capito? Hanno riempito tutti i lampioni di telecamere, da tutte le angolazioni, capito? Proprio per cercare di fare un po' di deterrente. Avanti, prego, chi è? Che fa? Vai tu, sempre roba vecchia, mi. Oi, buonasera Capri, buonasera, ben ascoltato. Santiago molto basso hai, 9 quasi. La radio già sembra buona. Ehi, già che stavo scherzando. Non l'ho mai fatto, chissà perché, forse ero abituato così, ma siamo sempre noi, quindi non c'è bisogno. Cosa stavo dicendo? Quindi Natali siamo a Ferre Corti, stavo ascoltando poco fa, ma c'era gente per la casa, finalmente ce ne sono andate, rompi l'anima. Oggi è 4, domani viene altre 2. Vabbè, quindi siamo a Ferre Corti. Abbi un po' di pazienza, dovete dire, state a tempo buono, vediamo cosa si può fare lì. Vediamo cosa si può fare, se fosse stato facile da poter arrampicarmi immediatamente e metterci un tubo e tirare lassù e mettere due tirati l'avrei fatto domani mattina, ma purtroppo è un lavoraccio, è stato un lavoraccio montarla, posso lavorarci, allungare e tirare su. Vabbè, vediamo cosa si può fare comunque, ne prenderemo piedi appena inizia il tempo bello. Mi prendi Natalino e fai girare, e tu a tua zia fai come ho fatto io, 6 mesi dopo il matrimonio, io abitavo al 9° piano, mia suocera abitava al 2°, quindi a 5 minuti era a casa, capì? Drin e un bigiattino. L'ha fatto per un po' di volte, poi un giorno mi ha trovato un po' con i primi girati, l'ha già graffata con il fondo del muro e si è giocata le carte. Già sappiamo che è un leggero ricatto morale, capito? Ti regala lo scalabagno. Purtroppo mamma non mette parola, si fa pagare le bollette e poi è chiaro che viene qua a spadroneggiare, capito? Ma non ho capito, Natalino, perché in ferri corti? Perché di nuovo roba hanno detto? Hanno trovato mia moglie stamattina, prima dell'essere il padrone. Dice che hanno mandato una lettera alle poste, non so, che vengono a controllarmi e vecchia. Devi pagare però, devi controllare. Adesso io ho messo l'omologato per sicurezza, però dico, se è tutto regolare, che non disturba nessuno, pongo 50 parte, non ne vedi niente, te lo dico io. Lo so, Natali, però digli, quando avete roba da dire, non andate a dirlo a mia moglie, venite a dirlo a me, capito? Così vi mando a fanculo bene, capito? Digli, non dite niente alla moglie, ditelo a me se dovete dire roba, capito? Così già va con su io. Ehi, andrò meglio, gli avvirulli, questi garroni che non so, ma se l'hanno fatta a me mi sta bene, perché vengo, guarda che quello che disturbo io, quello che fa le fotografie, le cose, che sempre con la macchina fotografica a coso, su, va giù l'antenna sopra a rubare usoio e io non disturbo, e c'ho l'amplificatore, evidentemente l'antenna di Nico che non andava, io gli ho detto se mi faceva salire che glielo controllavo l'amplificatore, se no si via, si rompava e ne ricomparavo un nuovo, proprio mi hanno visto il bar, no, ma mi chiamato le scopposte, si può vedere che loro televisione non ne vedono più, perché loro attacco anche il lineare. Te lo presto io il lineare, capito? Però Natali, sono cose dette e ridette. Non vogliono essere aiutati, però non vogliono. Allora, d'ora in poi avete finito, gli avrei detto, avete finito di guardare la televisione voi. Capito? Gli occhi ve le devono uscire. Poi se alzano le mani, peggio per loro. Capito? Sì, io vi devo lasciare, devo fare un giro almeno a vedere se c'è parcheggio, dai, non posso stare al baracchino. Già rientro dopo, dai. Ehi, vai, anche lontano, posteggia, come faccio io? Se non c'è Pinocchi, la ciapparaggio in un altro luogo, sul parcheggio e me la porta a piedi. Fa così, se no non è troppo il parcheggio, diventi matto. Non puoi stare sempre girando il parcheggio, no? Lontano mettila, che cazzo te ne frega, cazzo attacca i tuoi garraggi. Eia, sì, ma è una cosa allucinante, ecco perché io voglio fare tutto per avere la moto disponibile, per fare le commissioni, io se devo comprare da Lido 2 cosette, anche un cartone d'acqua ci sta sulla pedana, voglia, capito? Mi stasera l'ho detto a mia zia, ho detto sto facendo di tutto per vendere qualcosa e rimettermi in sesto la moto, e lei è stata zitta, perché le rode il culo mica io ci abbia la moto funzionante, non lo so perché, non c'è mai offerta di aiutarmi a metterla in sesto, no, a pagare nulla, forse le rode il culo che ci abbia pure la moto, non lo so cosa pensa. Cesare dice, ehi, a malapena vi potete permettere la macchina, adesso volete anche due alla moto funzionante, capito? Te ne esce con frasi del genere. Mamma mia, se avessi un lavoro, la manderia a fanculo 1000 volte, non una. Scusate le parolacce, però oggi proprio mi ha fatto saltare, mi ha fatto uscire dai gangheri, come che si dice? Va bene, a dopo, ciao, vado a cercare il posto, ciao. E allora, anche lontano parcheggio, va per il primo vetruvio a 3. Vedi, andrò in testa, mi direi di io. Vedi, non l'avevo fatto. Avanti, già. Claudio. Ah, non gli ho sbagliato il microfono. Che io non posso sbagliare che penso lo picchio. Ehi Natalini, ho 3 di MC60 in fila. Capito, quello del 4.30, delle 4.40 e 140, ma ormai le altre due sono spente. Uia. Comunque è un bene, Natalì, che l'abbiamo fatto, capito? Vedi questa storia si finisce. È un bene che l'abbiamo fatto. Tu dire tutto, lascia l'omologatino e aspetta l'evento. Quando poi vengono, sono sicuro l'evento battendo che prendono un colpo forte, perché il problema è loro, non tu. Vabbè. Ok, Gianni Capri 2, vieni avanti con questa HB23. Storica, l'ho avuta anch'io, poi l'ho regalata ad una persona che ci teneva e sono contento che ce l'ha lui. E prende e fai girare. Io non lo sento con questo omologato, dovete scusare, ma c'è una recensione che fa. Arrivi più basso di te, doppio. Eia, va bene. E chi vi era voluto un DAC, recensione a rete, va. Ah, 5 watt con un microfono di tavola mia. Allora come intisci? Allora vedi come intisci? Lo vuoi chi viene andata alla banca? E c'è questo qua, c'è un baracchino. Sembra un televisore, ma è un baracchino però, capito? Questo è il più grande baracchino al mondo. C'ha 5 watt ed è omologato. Omologato, capito? Perché la radio americana, vecchio stampo, vintage. E a ti tocca un chish, ma una ricezione finta che regala per il nivo che è sotto terra. E questo c'è una ricezione, se non c'è un omologato come si deve, questo la colonnina non l'ho potuta mettere neanche più grande, perché l'ho aperto nuda, non si può punire novinello. Perché non c'è colonnina, non riceve bene. Poi mi dia un bel QRM, è un Goldat 4008, una scatola di amiferi praticamente, non va, e a me mandava così, e praticamente però riceve male, devo buttarmi un omologato, non va pulito, almeno un casotto. Io Marco, fai un'opera buona, aiuta Natalino, io non ne ho, capito? Se no gli avrei dato adesso. Fai qualcosa, io metti in condizione Natalino, sino a quando arriva l'esco radio, di trasmettere bene, di ricevere bene. Non c'è Marco che è andato a vedere se riesce a posteggiare la macchina. Non ne ha neanche Marco. Poi cazzo si è messo la serratura e tu per uguisce va a girare in più di rubomello. E allora sai che ha trovato le chiavi oggi. E così ne ho due serrature. Ma vaffanguala. Se ti dico vabbè erano le chiavi non ci credi. Hai visto che non era quello di su. E davvero le chiavi. Metta la borsetta. No, cosa è la borsetta? 30 rugarrello, tu poni l'hai spesa. Ma è forse non la gattava. Gappa. Va bene. No, va bene. Vedo casino, E adesso mi ritrovo con l'altra serratura completa, con tutte e tre le chiavi e quella per il codice. Ma le chiavi dove erano? Dentro il carrello, quel carrello che lì si porta dove mette la spesa, quando va a piedi, no? Per mettere la spesa, quei carrelli che tu si... Ah, tipo un trolley, eh? Allora perché devo comprare con tre rotelli invece che tu. Ma cosa? Ma gli ci fate pure i cari? Eia. Già c'è. Già c'è, Amazon li vende quelli, belli, eh? E adesso ci faccio un video dopo, e vedo un po'. Beh, Peppino di Capri. Ho capito. Ascolta, questa modulazione ti piace, sì? MC60 e 140, questa è di Massimiliano a radio, eh? L'ho portata perché lui è impegnato a lavoro, fa i turni e quindi è un casino, però lasciala ferma. Allora ogni tanto la sto accendendo io. Questa è 140, quella che ti ho detto, insomma, dai, che mi hai capito. ce l'ha voi, questa è con l'MC60, è una bomba, eh? E io, vabbè, ma questa non ce l'hai però, e lì c'hai tutta la collezione, non ti procuri un 430, ce le hai tutte come c'ho io ce le ho tutte, capito? Sono belle, le usi, già va bene. No, questa è nuova nuova, te l'ho detto, nuova nuova, bellissima, funzionante, però non la sta usando, la sto usando io, se la prende, tanto non se ne va tenuta, si l'ha comparata ma non se ne va tenuta, tanto, è sempre impegnato lavoro, è sempre furi, capito? Infatti come vedi sta entrando quasi niente. Era voi, fammi un fischio, vieni e te la prendi. È buona, ma mi piace più quella del Tokai 5024, più spinta, più forte e più chiara. Natalino non ti sente, sennò avrebbe dato un controllo anche lui, capito? Vabbè, attaccare il meno possibile, metterlo piccolo, se non ci vuole un contattore professionale per poter attaccare tutte le radio, sennò troppa dispersione. Va bene, no, io non ne ho commutatore, c'ho la T230 che fa da commutatore d'antenna a 3, poi fa da accordatore, l'osmetro e wattmetro, quello là che è grande di linea, commuto le tre radio, con i 3-4, i 3 che diciamo il commuto con quello, capito? Avanti Natalini, ma tutti paridiso. Coso, Gianni è impegnato, Marco è andato a venire a fare un posteggio, cosa vuoi ti dire? Senza garage ho posto auto, è un casino quella zona, come quando io ero via Pascoli. Non c'era Cristo, perché mettere la macchina in garage era un casino, capite? Quindi lasciarla fuori, a volte la mettevo lì dove c'è il poligono, a volte la mettevo, per esempio, infatti non volevo rientrare qua, io qua ne ho due posti auto, ne ho due, quello di mio socio che avevano lasciato è il mio. Quindi non ho problemi, apro un cancello, entriamo dentro tranquilli a qualsiasi ora senza problemi. Vediamo un po', Marco, sei rientrato? Eia, ho trovato posto in Piazza Foggia. Oh, mamma mia, oggi troppo su di giri ero però. Poi mi c'era la pressione, adesso mi incavolo però Nicola, non trovo i piatti di plastica, mi incavolo. Mamma mia, un esaurito sono diventato, cioè già ero esaurito prima, ma sono diventato un isterico esattamente. Sì, vabbè, cerco di stare calmo. Stavo dicendo poco fa, ho detto, ma non riesci a aiutare Natalino sera quando arriva questo controllo, a dare una radio migliore, provvisoria, omologata, qualcosa che la consenta, perché non, con quella lì la radio è bassa bassa, non sente a Gianni, un casino, io non ne ho dei baracchini, non ne ho, capito? Beh, io ti ho omologato, veramente omologato avrei questo, però poi rimango senza io, senza omologato, Gianni ce ne ha di omologati, ma questa non è presta, non si fida. Sì, non si fida, non si fida, io ti ripeto non ne ho, siamo già lavorato volentieri, capito? Anche un vintage, qualcosa che le consenta di uscire bene, capito? Perché quella lì è bassa di radio, se dovesse usare qualche microfono di quelli forti capri, devo abbassare, non intendo più nulla. Non lo so, è la rottura di scatole, mamma mia. Riprendi capri, aiù, porta un vintage, dale Tokai 5024 a Natalino, aiù, poi quando te lo torniamo subito. Posso rispondere a Marco? Io non ne ho uno, un altro, due, in concessione. A tre mani di te ne avevi a quattro di Tokai, oggi ne ho uno giù. Io mangio adesso, Aspetta che per qualcuno di baracchi non muore, se lo faccio subito. Non so, capri, se hanno fatto un comitato lì di quartiere, che sono in tre o quattro, si individuano la specie e pagano, perché devono pagare, la postale non si muove se non paga, capito? Quindi sicuramente qualcosa succederà, perciò Natalino, per non farsi trovare impreparato, sta usando l'omologato per l'enzima. No, io non ne ho davvero, c'ho il DAC, c'ho il Superstar che non è omologato perché è corto, è tutto modificato, il 48 la stessa cosa, non ne ho, se no glielo avrei dato immediatamente. Natalino, ti devo fare un 140, un 140 di Massimiliano, di dopo, uscito Dratti e Rubone a manetta, veale. Così gliela faccio saltare la televisione, non solo l'altro. Sapete, va bene in altro ambiente. Ma che? Se ne arriva, ma chi? Capito, ci vuole veramente una cosa del genere. No, non so cosa dirti, è una cosa impressionante che uno non si possa far aiutare. Cioè c'è un problema, ti vuole aiutare, chiamo io l'antennista, faccio tutto io, ti vuole tutto io e stai lì. In più mi provo che mi fai, ma allora è proprio gente che non vale meno di zero, capito? Meno di zero. Vabbè. Vediamo doppio rutte, facci sentire questo omologato, io se è meglio di quello di Natalino daglielo. Ma non tanto in trasmissione, in ricezione, io in ricezione qua. Mi basta ridire. La ricezione è importante quanto la trasmissione, perché se ti sentono e non senti è un casino. È un casino, porca miseria, guarda. Vabbè Natalino, tu ti devi trovare un base vintage, capito? Un base 40 canali, li metti a 2,20, senza nulla, chi mi rimuove un microfono a tavolo e via. Peccato non ce l'ho più quelli noi, ti sono travelato quel Zodiac, che cos'è? Base, non c'è un trabello. Mettevi lì con le MB più 4, MB più 5, ma anche col microfono normale ci va bene. Ma così tranquillo, a 2,20 e a te doppio. Ma io doppio rutti, facci sentire questo omologato. Non è che già ne devi smontare mezzo mobile, ma lo faccio sentire omologato. Riprendi Peppino e Capri. Grande Peppino, io attacca la chitarra. Allora si porta l'altra postazione e attacca il console, quello che ho dato io, bellissima radio. Bellissima radio, bella, bella, bella. Vai Natalino. Chi sulla via Mario Mauro, la divisi su console. Sì, sì, l'avevo comprato io, un po' di roba di Mario, me l'aveva proposta Gian Maria, l'avevo comprata io. Poi li avevo tantissimi, tantissimi, tanti, gli avevo dato anche il coso, il ricevitore. L'ho fatto a Capri. La maggior parte della roba l'ho data a Capri e a Roberto Quadrato. Ero tantissimo, stavano iniziando ad essere truppi. E allora molti da mettere a posto, a controllare, li ho tutti regalati a Capri. E il resto li ho dati a Roberto, quelli funzionanti, quelli un po' più buoni. E il soccaccio la regione. Ma non era omologato, si sente. Aveva la macchina, l'originale, tutto originale, ma l'aveva regalato Mario, non era detto, aveva la facromata, non tanto era detto. Sì, sì, sì, ce l'avevo anch'io, volevo fare in gomma, rivestimento in gomma davanti e via. No, già erano omologati quelli, poi 23 canali più l'11 alfa, anzi 22 canali più l'11 alfa. Gappa. Sì, erano omologati, vecchia omologazione, vintage, tutto HB23 omologato, tutti sono omologati quelli, capito? Però già funzionano bene. No, Gianni mi ricordo c'aveva un, questo mi sembra un Intec, quello che c'è Gianni, 508 SX o che cos'è? Veramente. Gianni, aspetta che stava modulando Capri 2 già, aspetta Capri 2, sta uscendo una bomba, aspetta un attimo però che c'è Gianni con quello piccolino, vai già, benissimo, alla grande, segnale basso e 9, però la radio è buona, e Ghiscio andrà, sicuramente andrà meglio di Ghiscio Ivan Attalino, bella la radio già, bella, se avevi il segnale più alto è fortissima la radio, va bene, lo senti tu Attalino? Ehi, che lo sento, perché non in avanti, fammi sentire il console. Bene, va bene, ma ci va bene. Io quel console mi attizzava forte la modulazione e il coso, e come si chiama, la ricezione. È una bella radio quella, è una bella radio. Ma stai andando bene, Capri? Hai zitto? Ehi, no, c'è bene questo. C'è bene. Avanti, Rattalì. Già, ehi, lo sentivi? Con l'antenna grande? E come mai basso il segnale? Stai arrivando quante Capri? 9. Ma non è che c'è la potenza minima, no? Che strano, l'avevi provato un giorno lì, con lo stesso segnale arrivavi di normale, 9.10, 9.15, più basso, però molto più alto. Io pensavo che stavi usando l'antenna sua. Perché? Avanti, Mastro Giulio. Ciao, qua. Comunque sì, con Gianni ho sentito Gianni, l'altro Gianni non lo sento. Poi c'è qualcun altro, c'è anche Marco, non lo so. Sì, c'è Marco Condor, che forse si è allontanato un attimo. C'è Gianni Oprimo che sta provando un portatile, il KP2 sta provando la KB23, quindi segnale basso, e poi c'è anche Natalino. Vai, per chi vuoi. Ah, ok, ciao Gianni. Allora, ciao Gianni KP2, se mi ascolti, ciao Natalino e ciao Marco. No, non lo sento a Gianni KP2, assolutamente no. Gianni, ho sentito, ma con un segnale molto basso, non so per quale motivo, Santiago stessi appena qua. Va bene, avanti Natalino. Ehi, buonasera, ben entrato. Avanti si rimane chiamato le scopposte, ma mi chiamano. Non mi pare lì, dipende da questo di là. Così almeno me la finiamo con questa storia e se la mettono a posto l'antenna. Devo mettere a posto niente, io mi sono offerto a suo tempo e loro si sono rifiutati. Io so solo che a quello che dici tu faccio l'antenna mia sul suo palo e io quando parlo alla mia non gli faccio nulla, evidentemente c'è l'amplificatore messo male. Ok, fregatela, forse questa è una cosa buona, se arriva al vescovo, così almeno risolvo questo problema. A quel punto lì tu sei in regola e dunque magari non sono in difetto con queste antenne basse che hanno e se dovranno cambiare meglio così, dai, aspetta allora quando arriva e poi si verrà cosa succederà. Avanti Gianni, ti rispondo io già, ma sei bassissimo nel radio di segnale, andiamo 7 e mezzo, dai, di segnale, come va così? Molto basso, ma quando hanno 20, 30 il tuo segnale è molto basso, Santiago 7 e mezzo, oscillante a 8, per cui non sta andando bene. Marco? Marco deve essere andato a prepararsi da mangiare. Vediamo Gianni, Capri. Il console è una bella radio, porta di fila, perché tu c'hai posto, sei appassionato, io non... Baracchini, qua, c'è solo il DAC e basta come base, gli altri sono tutti dentro l'armadio. Ok, riprendi Natalie. Però Capri, dai, attacca una radio che ti senta Giulio, che ti sentono tutti, se no è un casino qua, io. Fai da bravo, metti tutto da parte, attacca una radio e fatti sentire, io, che Giulio non ti sente. Come va adesso? Bene, bene già. Va bene, doppio, va bene. Gianni rientra subito e così cambia radio, vai. Riprendi doppio rumore, tratto Giulio. Sì, l'ho già salutato, ciao di nuovo Giulio. Stavo provando quell'apparecchio SOS, quello vintage, ma a quanto pare sono scaduti, diciamo, i finali. Perché quali sull'ordine dell'8, 8 quasi 9, da Giulio che sei più favorevole di 7, così hai detto giù. Sì, 7 e mezzo è oscillante a 8, non di più. Adesso sei 9.10 Gianni, evidentemente stai usando proprio un qualcosa come un monogatto. 9.10 oscillante a 9.15 stai arrivando adesso Gianni. No, sto usando il Magnum PI. Ma lo stai usando con un bassissimo vantaggio, però non è questo il tuo segnale. Il tuo segnale è sempre intorno ai 9.20 su questa radio, 9.20 anche 22, per cui non è il tuo segnale, insomma, ecco, sì, è buono, non ci sono dubbi, però non è il tuo segnale. Prova a guardare. Prova perché è pieno di fischi. Prova così, guarda. Metti solo la portanza, perché la radio arriva a 9.15. Metti solo la portanza. Dieci è leggermente scarsa, anche 9.9, dai. Sì, vabbè, allora vedi che cos'è l'antenna, non è possibile. Aspetta un secondo. Oh, Gianni, qua sei 9.20, il tuo segnale, giù, guarda che se magari ti hai dimenticato toccandolo lì l'attenuatore, perché sei giusto all'attenuazione, se 25 ti arriva lui, e dai 9.10 e c'è l'attenuatore inserito, prova, controlla. No, qui è tutto a posto, ho già controllato poc'anzi, perché anch'io quando ho visto che c'era il segnale così basso, pensavo che ci fosse l'attenuatore, invece no, è inutile qua. Senta, mi mongo il PC, ti avrei il tuo segnale, perché ho commutato il 440, che lo conosco meglio, magari gli altri hanno qualche differenza di leggera di smittere, se io mongo il PC ti guardo il tuo segnale per vedere se sei tu. Ok. Beh, certo, il tuo segnale qui arriva a 9.18, per cui qui è tutto a posto, no, non c'è nessun problema. E quando è Gianni, e di solito Gianni mi arriva un po' più forte di te anche, per cui qui è a posto tutto, l'attenuatore non c'è, è messo bene, non ci sono problemi. Riprendi di nuovo Gianni. Abbassa appena Capri, no, la potenza lasciala, la radio abbassa e stai trappando. Alza appena, sì, lasciala così, meglio così, vuol dire che voleva usata e basta. Giulio, sì, è il tuo segnale, leggermente più basso, ma sicuramente stai usando il K, che è la potenza bassa, però sei oltre 9.15, quindi è il tuo segnale. Già, allora controlla, doppio, controlla lì qualche spezzone. Vai per Capri 2, Giulio, se lo senti adesso. Sì, adesso lo sento, no, adesso non ci sono problemi, adesso va bene, anche nel radio. Avanti Gianni Capri 2, con la buonasera. Ehi, Capri 2, ti ascolto, dai. Come non serve? Già serve, se la regoli bene già serve, come no. Già va bene questa, basta tanto da regolare bene. Tu piuttosto, tutte le volte quando entri hai bisogno di essere sempre regolato, perché non entri mai così al primo impatto, non esci mai bene, anzi esci malissimo, devo dire, per cui, ma poi già aggiusti e già va bene. No, va bene, adesso va bene, sei arrivato intanto con segnali doppio a quello di prima rispetto a quel omologato che avevi, per cui si può immaginare, e la radio adesso è discreta, dai Gianni. Oh, è venuta gente, un attimo devo chiudere per un po'. Eia, cappa. Va bene, allora ci aggiorniamo dopo, dai. Io rimetto il cambio per Marco, se è rientrato, se no o riprende Natalino o riprende Gianni doppio lungo. Marco, ci sei? Masticazione lunga, Ciao Giulio, bella la vignetta, bello il video, E beh, tipico dell'Italia. Dai, ci metterò un po' d'acqua a mangiare il dolce, il caffè, la mazza caffè, saranno già le 8, dai. Ok, ciao Marco, buon appetito allora, se stai pranzando. Io dico pranzando perché anche se questa è ora di cena, ma tu a questo la pranzi, per cui va bene così. Vabbè, Natalino, ti salutiamo allora, visto che hai dovuto chiudere, ci sentiamo alle prossime, se sei ancora all'ascolto. Va bene, Gianni sei rientrato, sì? Gianni doppio russo. No, non è rientrato, li prendi qua. Sicuramente sta controllando qualcosa, perché non so, io qua comunque ho notato il segnale giusto, 9.20, non so, però col portatile con l'antenna esterna era Santiago 7, forse qualche spezzone, qualcosa. È probabile, magari col vento che c'erano in questi giorni, perché anche oggi c'è un pochino, può darsi anche che abbia difettato un pochino, sono cose che succedono. Teniamo in considerazione anche il fatto che io ho l'antenna bassa, per cui diciamo che il video di massima in parte mi dipende anche un po' da me. Però anche con questa antenna, come adesso, e con questo filo che ho sotto, diciamo, Gianni mi arrivava sempre leggermente più di te, di qualche punto S, ma non più di tanto, comunque, ma ad ogni modo è per quello che l'ho fatto notare, niente di più. Vabbè, dai, pazienza, ne prendi Marco, dai, dopo Matte che no, è impegnato, ha la bocca impegnata. Gli ho mandato una vignetta che mi hanno, a loro volta mi hanno mandato a me e io l'ho mandato a Marco. Del PD. Cos'è che non inventa la gente? Madonna santa. Ma è Natalino invece che fila ha fatto? È arrivata gente a Chiuccio. Anche questa cosa lì, mamma mia. Non fare così, ma locale tutto il giorno, quando arriva gente e dici va per furta, se no ma ti vai a fare da. È un casino, non lo so. Vabbè. Invece quando arriva gente chiudo la porta e no, non vedono, non sentono. Va bene. Ma è doppio room, hai controllato? Eccomi qua, ah, buio, tutto a posto. 1-1 di stazionarie, ah. Come fischio 30 watt, va benissimo. Non lo so, bisogna contattare il perché. A me stai arrivando giusto, da loro no. Da chi loro? Da Giulio. Ah, solo da Giulio. Ma chi lo sa? Magari anche chi si radiali, per carità. Mi serve una nuova antenna doppio room. Mi serve una nuova, riprendi giù. Ok. Ovviamente è un'antenna lunga, ci sono altre cose, evidentemente. Gianni, fatene una come quella che ho fatto io, dai, così almeno risolvi il problema, le radiali e tutto. Col vento in questi giorni non gli ha fatto un baffo, proprio oscillava, proprio che era una meraviglia, ma comunque è in tela, insomma, ecco, anche stasera sono salito a guardare, è tutto inutile. Mi prendi Gianni? Ah, te l'hai autocostruita giù? Sì, la cosa, tipo Game, dai. Per cui avevo una base, cioè il rocchetto, come lo vuoi chiamare, dai, dove si fa l'avvolgimento della bombina, l'ho fatta, l'ho completata, e buona grande, se l'ho fatta anche a Franco, avevo passato i dati anche a Franco, l'avevo passato e non Franco di Sotto, sono Franco di Santa, e anche lui esce così con l'antenna e va benissimo ugualmente, per cui non ci sono problemi già. Fatto bene, risparmiato, allo stesso tempo va bene. Sì, va bene, soprattutto non fischia la notte quando c'è vento già, perché era un tormento, era la notte, non era possibile, ma fischiava in una maniera impressionante. C'ero sempre la mantova, c'ero sempre, l'ho smontata, però lo stile centrale è sempre intero, l'ho messa all'interno del terrazzo su di una strada ed è tanto lungo, il terrazzo è 8,50 m su due lati, 8,50 e 8,50. E l'ho messo, l'ho lasciato intero, lì l'ho sdraiato per terra e va, ed è a posto, anche stasera l'ho visto, per cui va bene così, ma non penso che la piacciano più la manta, vai? No, penso proprio di no, tu tieni presente che adesso c'è una antenna e interrato praticamente in una parte più bassa della casa, a differenza di prima che era in una parte più alta, tu considera tutta la pendenza del tetto, no? La mantova era lì, nella parte alta. Se questa l'ha messo dove era la mantova prima, né più né meno la stessa resa della mantova, anzi forse anche di più. Va benissimo già, va veramente bene. Niente stazionarie, su tutta la gamma 27, per cui va ottimamente bene. Vabbè. Speriamo che resista, che col tempo non si deteriori, vabbè, che anche la mantova col tempo si deteriora, ma passano tanti anni. Se è fatta bene comunque dovrebbe resistere. Certo già, il discorso è sempre quello. Poi in caso ha voluto che l'ho piazzata in terrazzo, su, l'ho tutto portata in mano per poterla tarare. Beh, il caso ha voluto che l'ho indovinata al primo colpo, non c'è stato bisogno di toccare nulla di nulla. Come l'ho messa è, pensa che dal terrazzo c'è un palo che se l'ho messo 1,20 m, non di più, non mi arriva nemmeno la bocca, mi arrivo quando sto in piedi lì in terrazzo. Praticamente è chiusa anche tra quattro muri, se vogliamo, no? Per cui se dovessi metterla dove la mantova, si può immaginare, la resa migliorerebbe molto. Io l'avrei messa arrivata sul tetto o giù. Arrivati a questo punto l'avrei messa sul tetto, l'avrei fatta rendere come deve rendere, in spazio libero, senza muri, senza nulla. L'avrei fatta rendere così, magari non adesso ma in estate, quando c'è bel tempo, o anche adesso quando c'è bel tempo si può fare un salto sul tetto e metterla. Perdonatemi un attimo che esco a portare il cane, dai, se siete qua vi raggiungo. Un quarto d'ora, 20 minuti sono veramente a radio, le prendi giù. Ok qua. Stavo dicendo, sì, beh, in effetti sì, ma adesso siccome non ho la voglia di farlo, ce lo potrei anche farlo. Tanto più che è leggerissima, è una canna a pezza, per cui si può immaginare il peso di una canna a pezza, cosa può essere? Una canna a pezza a 7 metri, ci ho aggiunto un pezzettino in punta, perché quel pezzo di punta non era troppo sottile per passare il filo, no? Perché il filo passa internamente alla canna a pezza. E allora da una canna vecchia l'ho tagliata, la punta l'ho tolta e ho innestato quella per poter arrivare sempre alla lunghezza che mi serviva. Quanto l'hai fatta lunga in totale? In totale 6,90 m, praticamente dalla base, dalla bobina diciamo, 6,90 m. Vabbè, aspetta. Basta comprare di quelle canne, di quelle bolognese, di quelle lunghe lunghe. E lo puoi mettere anche esternamente, perché tu mi dici rovina prima, è vero anche quello, ma per evitare di stare a fare modifiche e cose, lo puoi mettere anche esternamente o no? Tanto la canna serve solo per tenere all'interno il filo e basta. Sì, si può mettere anche esternamente, certo. La canna costa 16 euro da Decathlon, una canna a pezza da 7 metri, 16 euro da Decathlon, per cui è risolto il problema. Buono. Si può usare anche la base della mantova, così è? No, è un rocchetto, ho preso un pezzo di tubo di quelli di scarico, scarico d'acqua, dai, quello arancione, è un tubo da 63 mm di diametro, e ci ho avvolto lì, non mi ricordo se ne ho fatto 16 o 19, siccome ci sono due versioni, io ho aperto il computer, no? Ho visto questo progettino e l'ho copiata, è andata bene già, praticamente puoi aprire anche tu, il computer lo vedi e è facile da fare. Ti sto dicendo, l'ho detto a Coso, l'ho detto a Franco, se l'ha fatta lui e in un paio di giorni se l'ha montata e funziona benissimo. Ci credo, non è che sia difficilissimo, basta stare un po' attenti con le regole che ci sono e non è difficile, dai. Bisogna solo avere un po' di attenzione facendola, e le attrezzature soprattutto. Come l'hai bloccata poi la bobina? Un tubo ce l'ho inserito dentro. Un tubo ci ho inserito dentro, uno stessone da dove è attaccato il PL in giù, un pezzo di alluminio, un pezzo di tubo alluminio che poi va è attaccato al tubo o al palo, per cui, ma per il resto no, perché deve essere così, non ci deve essere metallo da dove si avvita il PL, non ci deve essere metallo sotto sì, ma sopra no, nemmeno di un centimetro, per cui va bene così già. Sì, va bene, va benissimo. Hai visto, hai fatto l'antenna senza spendere tanti soldi, senza avere problemi di ordinarla, di farla. Tanto qua non si trova più un cavolo, ma fino a che avremo a Sassari avremo quelle antenne lì. Sì, beh, certo, ma ripeto, l'ho voluto fare così per il gusto di fare, adesso mi diletto anch'io, ho visto, l'avevo visto il progettino con tutte le misure, c'è cioè, al computer, tu apri il computer, mi vedi, scrivi Game Master costruzione, Game Master spiegazione, tu apri il computer e ti dice tutto indistintamente, guarda, non ci sono problemi già, lo fa anche un bambino di 10 anni, lo so fare. E come l'hai collegata al palo con le staffe di quelle a U? Avevo delle staffe della cosa, tipo quella per i 2 metri, l'antenna dei 2 metri, no? Che la monta anche la XC30 della Diamond, avevo quelle due tappe di quelle e ho utilizzato quelle lì, capito? Non è a infilare dentro il palo, è di fianco, la vita attaccata con due tappe di fianco, con due cavalluti, dai. Sì, sì, ho capito, è proprio quello che immaginavo, dai. Già va bene. È un'antenna leggera, flette, eccetera. Sì. Solo che io se la monto sul tetto non deve fare casino, perché lì ci abita gente nell'attico, capito? Se fa rumore poi le senti le voci. Gianni, silenziosissima, io mi sono deciso di fare anche quello, soprattutto con la speranza di riuscire a ottenere il silenzio assoluto, cioè silenzio assoluto, a differenza dell'altro, dell'altra che durante la notte, quando soffiava il vento, era una continua sinfonia, per cui è stato guarda, un lavoro ben fatto, non ci sono contentissimo anche. Sono contento. La canna è che cos'è? Vetro origina oppure in che fibra è? Se è fibra di vetro, cos'è? Non lo so solo che non c'è metallo con la canna lì. Di cosa fa? Una canna fresca di quelle che vende Decathlon, 16 euro, 7 metri lunga. Costa 16 euro, lunga 7 metri, Decathlon, via Santa Maria. Ah, ho capito. Va bene, dai. Si sente bene, arrivi bene come segnale, quindi vuol dire che la cosa funziona. Beh, ok. Poi tra l'altro l'ho messo anche, gli ho tirato di quei tubi rigidi dei fili elettrici, no? per rimportarla, e dunque è rimportata anche, oscilla, è una meraviglia, cioè, oscilla molto, la brezza oscilla molto, però non è successo niente, con questi giorni di vento fortissimo non gli ha fatto un baffo. Si è fatta bene, non deve avere problemi, non c'è nessun altro tranne che lui, giuro. No, Marco che stava pranzando, Claudio è andato a portare il cane, Natalino ha dovuto smettere perché c'era gente, non so, insomma, siamo soli, là. Ah, forse c'è Gianni di Muro, Gianni ci sei, Gianni di Muro. Tutti morti, scusate, io mi sto... ho finito di mangiare, mi sto ingozzando dei cioccolatini. Mamma mia, che... Sai quali sono già? Quelle tonde che possono essere dentro o marroni, cioccolato al latte, oppure cioccolato bianco, oppure le praline, le granelle di nocciole, quelle lì. Mamma mia! Quelle sono la morte mia, però la glicemia chissà che fine fa. Che goloso che sia! Vabbè, dai, io vi saluto e ci sentiamo domani eventualmente. Adesso scendo per la cena, perché poi stanotte c'è la partita e per cui voglio essere già libero dalla cena per la partita che inizia alle 9:04. Ci sentiamo, ciao Marco, ciao Gianni, ciao Claudio se sei in ascolto, Natalino e quanti ce ne sono, Gianni del Muro, eccetera eccetera. A domani, dai, ascolto fino a lì e chiudo, riprendi Gianni. E io là, ciao Giulio, buona continuazione, buona serata, dai. Avanti Marco. Scappa Giulio, buona serata, buona cena, buon tutto, dai. Ci sentiamo appena possibile, domani ho paura che scenda o che salga, dipende da dove arriva, per piacere questo maledetto scaldabagno della cucina, mamma mia. E vabbè, dai, meglio non pensarci oggi. Ma te l'ha anche piazzato lo scaldabagno, la donna uomo? Diciamo che l'ha messo sui supporti, però bisogna fare tutti i collegamenti, sia elettrico che idrico. E ho paura che piombi domani. Eh sì, la dovrò sopportare, perché, capito, io non è che faccio niente, io le passo i ferri, cioè fa tutto lei, io devo stare lì come un idiota in piedi, qui è bello che c'ha, che ne so, c'è il trapano a 30 centimetri, a 40 centimetri, a mezzo metro, no, vuole che glielo passi tu, capito, come dice lei, bisogna, siccome sta lavorando lì, devo contribuire. È giusto, è giusto. Signor schiavista. Ehi, sì, ma ce l'hai lì a 30 centimetri, trappano, cosa mi dici? Passami il trappano, piglia a dito, no? E infatti diventa la presa per il culo a certi livelli. Bene. Comunque, io c'ho quell'apparato, potrei restava salito, quello, come si chiama, non questo, quello lo frequenzimetro, lo riporto omologato, problema sai qual è già, io posso riportare lo stato omologato, ma se l'escoposto dovesse misurare, che c'è un'armonica, una spuria, che il baracchino dà, anche se omologato, potrebbe dare spurie armoniche non previste e magari lo sequestra e ci perdo io. Capito? La baracchina che siamo andati può avere una cosa imprevista e quelli magari dicono, ah sì, allora il disturbo viene da questo, lo sequestra e ci devo perdere un baracchino, no, mi dispiace, non lo posso prestare, non lo voglio prestare. Tu hai detto già ne ce ne ha omologato, che cosa c'è omologato? C'è il bagno, il Galaxy, e quello che c'è omologato è della concessione, non lo do nemmeno se mi spari, non lo do perché quelli se vengono a fare un controllo c'è quello lì. Ma qual è quello omologato? Aspetta, Midland, come si chiama? Va. Sì, sì, è quello lì, è quello lì. Midland Plus. Il 48 Plus, sì, è vero. No, credo ne avessi di più, vabbè. Comunque il problema è quello, apprezzare la roba, metti che davvero ci sia una spuria imprevista, perché sai, questi baracchini sono fatti sempre in Cina o Malesia, quello che è. Loro li tarano in modo molto sommario. Metti che dia una spuria, un'armonica, un disturbo che manco sapevo avesse. E allora dicono, allora è questo che disturba il vicinato, lo sequestrano e me la prendo in culo io, no, mi dispiace. Lui ce l'ha un omologatino, usi quello, non so che ti dico. Ma è che vuoi che ti dica? Così è, purtroppo, purtroppo. Ma se lo può prendere, dai, uno, intanto non costa l'80. Io poi quel Midland ce l'ho senza microfono, perché io ho il microfono originale, ma devo fare gli attacchi. Devo comprargli sempre lo spinotto e fargli fare gli attacchi, perché l'altro microfono mi era caduto in terra, si era rotto, però ne ho buscato un altro, me ne hanno regalato uno nuovo, nuovo, nuovo, uguale, identico. Eia. Eia. Qui ho omologato, vabbè, c'ho un affare, come si chiama, un Polmar Zeus, no, Lafayette Zeus, è uguale allo Zeus, ma è una cosa indegna, proprio indegna, no? C'è una ricezione, uno schifo, o meglio, lo squelch non lo puoi regolare perché tanto senti, ti copre gli altri, poi esce dall'oltretomba, una modulazione orribile, tipo così, tutto così, ma vai. Non dovrebbero nemmeno vendere i baracchini a quei livelli, cioè porcate a quei livelli, non ne dovrebbero vendere, proprio per niente. Sì, costano 50 euro, 60 euro, ma non valgono nemmeno 60 euro. Quello piccolino, stai dicendo, quello filo fino. Ehi, guarda, se tu conosci la Lafayette Zeus, il Polmar, come si chiama, lì è uguale, c'ha il frontalino leggermente più, meno elaborato, ma è la stessa porcheria, piccolo, sono come due pacchetti di sigarette affiancati, no, ma non valgono niente, niente, io l'avevo preso esclusivamente per l'apparato in concessione, prima di avere questo, poi vabbè, ho preso questo, esce molto meglio, riceve molto meglio, c'ha le bande laterali, oh, un altro mondo. Bene, bene, ieri ho venduto l'Intech FM548CX, finalmente me ne sono liberato, 50 euro. È venduto? Eia, c'avevo anche la modifica a 120 canali. Vai, fa due. Oh, io sto vendendo un po' di roba, se ti interessa. No, io sto vendendo, io mi devo mettere a posto lo scooter, sto dando quello che riesco a dare. Che non riuscirò a vendere niente sicuramente, perché per vendere devi mettere su eBay. C'ho subito manci su eBay. Per eBay devi spedire la roba e mi rompo le palle e andare alle poste a fare il pacco, no, no. È tutto un abbraccio. Cosa stai vendendo? Oh, i baracchini che riesco a vendere, o il 5005, o il CRP 7009, il 9009, lo devo tenere d'occhio perché c'era quella storia che mi cambiava il canale senza volerlo. E poi il bibanda VHF, VHF Yaesu 8008, che poi è l'8009. Ah, e dai, sono un po' difettosi, non sono tranquilli. No, no, io roba così non è video, prendo solo roba che funziona bene, io sono un po' pignolo, deve funzionare bene, non avere un graffio né niente, deve essere trattata bene, se no non mi piace. Io ti invio roba vecchia, io nella mia stazione c'è roba completamente nuova, anche se il garage è stato un ecco, c'è tanti anni, non c'è un graffio, manco se vai a cercarlo con lanternino. Eia. No, non sono difettosi, uno solo, magari non lo so, c'è lo scanner impostato, non me ne accorgo. Siccome sono apparecchi che conosco, poi solo i 9009, quello con tanti watt, insomma devo vedere, devo verificare cosa può essere. Poi se c'è semplicemente il tastino del PT, cioè il microfono in tazzi, casomai se c'è un patatino troppo vicino che tocca, glielo distanzio un po', tutto lì. Sì, ma non compra niente nessuno. Addirittura ho sentito, aspetta, una chiamata lontana, chi è che chiama? Vabbè, niente da fare. Pensa che quello frequenzimetro, come si chiama? Come. Vabbè, lasciamo perdere, non mi ricordo il nome. Vabbè, comunque se fai prezzi abbordabili già li vendi. Sì, ma non svendo, a svendere no, assolutamente. Tanto poi me ne pento, te l'ho detto. Non riuscirò a venderli a meno che non li metta sul mercatino di Roger K, oppure su... non ho mai venduto su eBay. Solo devi fare il pacco, vabbè, giustamente uno se vuol vendere deve fare un piccolo sacrificio, quello è vero. Se lo metti in conto sia la spedizione che il pacco, se lo metti tutto in conto non ci perdi nulla. Sai cos'è, o non hai mai la scatola adatta, le dimensioni giuste, oppure non hai materiale di imballaggio, a meno che non usi la carta appaltolata come fanno molti, la carta di giornale, mi dico, la Sardegna. E vabbè. Metti pure il cirolo, metti qualsiasi cosa, lo trovi anche vicino al caso di Tramondese. Sì, vabbè, ma fa un frugare mezzo, eh? Sì, pure il cirolo. Vabbè, io posso usare anche, sai che cosa? La carta tritata dal distruggi documenti, quello solo che sporca di polvere di carta, tanto vale usare carta di Nuova Sardegna pallottolata, fa sempre un po' di, capito, effetto ammortizzante. Sì, quello sì, tutto che non sia molto pesante l'apparecchio, se no chi c'ha tutto. Eia. Per il bibanda veicolare, uno mi ha detto, guarda, mi aggiungi una tata somma, ti pili il 4,40, mamma mia, non sanno più a chi si rifilarli i 4,40 o i Kenwood in genere, non sanno più a chi rifilarli, mamma mia. Poi io l'ho detto chiaramente, io non devo scambiare niente, io sto vendendo, lo sto scambiando e mi vogliono dare roba in cambio, non esiste. E poi di solito roba degli anni 80, ma fai. E così come quando stavo prendendo la moto, la mettevo su subito, che mi dicevano, uno mi ha chiesto se volevo fare scambio con un enduro, un altro con un Transalp, tutte moto che sono, diciamo, tanto di cappello, però a me non mi interessava la moto, mi interessava i soldi. E allora mi devo prendere la macchina, quindi mi interessava di soldi. Sì. Guarda, quando su Roger K avevo messo l'857 in vendita al quadribanda full, con tutti i modi di emissione, c'era gente che mi scriveva, guarda, ti posso dare una parte dei soldi, una parte, volevano dare baracchini, roba beccia. Ho detto no, io sto vendendo, alla fine mi chiamavano solo per scocciare, è bello l'apparato, ma c'è sempre, alla fine ho scritto, a se perdi tempo e rompi palle, lo sai, come fa Aquario 58, scrive sempre, non perdi tempo, non rompi palle, capito? E io già ne ho comprato roba da eBay, anche buona, qualche cosa abbiamo rifatto così, tipo un Galaxy che c'aveva anche la scheda di 40 litri, però aveva questo rumore sottofondo, c'aveva questo alternato, era per quello che se l'era sbarazzato, bastava cambiare, come l'hanno detto, bastava tutto l'alimentatore, diceva va a cambiare l'alimentatore, era fatto il gioco, invece io l'ho dato, l'ho regalato là. Pensa che quando dovevo vendere, che mi ero con Eugenio, ti ricordi, e non ho deciso se darlo no, prima sì, poi no, quel baracchino costava 250 euro, quello lo frequenziometro. Beh, ho chiesto se lo voleva 100 euro, lei non ha voluto, nemmeno 100 euro, manco a svendere, capito, ma piuttosto me li porto nella tomba. Qual era, che baracchino era quello, non ce l'hai ancora? Sì, si chiama Super Jupix 2000 ed è come un 3009 con frequenziometro, certo, ha piccole pecche già di fabbrica, per esempio do ogni tante accensioni che adesso non si accende, perché sicuramente ha una saldatura fredda e io non so qual è, e poi non è toccherì. Poi in mandarcella le riceveva leggermente vibrate le persone, anche se le centravi, anche se si è attenuato molto quel difetto. Poi in FM non so perché riceve sporco, bisogna mettere il clarifier tutto a sinistra, cioè proprio è uscito così di fabbrica, se vogliamo. E insomma non è roba che va messa in vendita come nuovo, è quella, però l'avevo comprato da chi l'avevo comprato, da quel farabutto di Lucca, a me il futtiveccio. Allora me l'ho messo io, sì, magari era roba restituita, però se non lo usi a fondo magari in FM laterale sul momento non te ne accorgi, anch'io non me ne ero accorto, capito, però non è roba che ti impedisce di usarlo né modulare né niente. E vabbè, gli ho detto anche Natalino, molto se vuoi lo riporto omologato, e lui quanto costa, 100 euro, e lui non è tutto a regalare, no? Ah, io regalo, glielo. Ma sono preso da tutti. Pesano adesso in questo periodo, è un po' pesante pagare la roba. Io adesso volevo devo togliere, ma sono un po' indeciso, devo vedere la macchina nuova, però c'ho paura. C'ho paura perché quei tempi che stanno correndo, non si sa mai che cacchi lui di gambo. Io voi non temere. Già lo sai, no? Lo sai che poi quella storia là non è stata fatta? Nulla, col cambio? No, c'erano delle cose che non li quadravano. Te l'ha già detto, mocha vera, giotto. Non l'hanno fatto. Sai che cosa stanno adottando a Sassari? Stanno facendo, c'è un tipo di contratto, non so se sia legale o meno, che praticamente sì, ti conservano il posto di lavoro, però devi rinunciare a ferie, a permessi e a malattia. Se no ti decide. Ma non esiste il contratto collettivo nazionale del lavoro e vuoi per tutti, cosa vuol dire? Vuol dire che quello è un contratto a chiamata, cioè un contratto di sicolco. Ma sono legali, però bisogna sempre consultare un sindacato, perché la girano, la fanno, capito, non è così che funzionano. Il contratto nazionale del lavoro vuole per tutti, e quello deve essere, adesso le ferie, non faccio ferie, sì, ma Maro che mi baga, permessi, se mi serve un permesso non lo posso prendere, no. Sì, è un tipo di contratto, aspetta, vado a vedere come si chiama. Mamma mia, a me non sembra neanche legale. E ci sono questi contratti col co, capito, si chiamano, sono dei contratti così, ti paga una giornata, mi capito, però non hai indennità di niente, né di ferie, né ti mettono tutto così al giorno, calcolano loro, capito, e ti pagano così. Risparmiano tantissimo, sono dei farabutti, guarda, per carità, meno male io non sono mai entrato in questi giochi di Carruzzo, grazie a Dio sono arrivato al massimo con tanto di rispetto da tutte le aziende che ho lavorato, veramente a tutte non mi posso lamentare. No Claudio, no. Finito i regali, non si regala più niente ormai. Ferita baracchini, non si regala più niente, chi vuole paghi, e non si ordina più niente a nessuno, ormai ognuno pensa a fare i propri ordini per conto proprio. Non voglio responsabilità, non voglio storie. Il periodo delle vacche grasse è finito. Non si tratta, non è il nostro caso, sto parlando di Alghero, Sassari, eccetera, eccetera, che stanno facendo questo tipo di contratto. Però siccome c'è molta crisi, si accontenta, no? Piuttosto che essere licenziato, si accontenti perché ti prendi lo stipendio, capito? Lo so, però se disgraziatamente ti capita un freddore da 5-6 giorni che devi rimanere a casa per forza, non sei pagato. E lo stipendio scende perché non ti pagano, capito? Sono i contratti balorti, che comunque sembra che siano legali, però il sindacato è sempre contrario a queste cose, capito? Non lo so già, non lo so, io oramai sono al di fuori, però ne ho sentito parlare di queste cose, e quindi non lo so, speriamo bene. Ehi, vabbè, ormai non si regala niente, io se devo regalare qualcosa la regalo, perché quest'anno ho fatto un bellissimo regalo a un amico che mi serviva e le piaceva, purtroppo i tempi sono quelli e li ho regalato col cuore, la verità. Io poi mi è capitato anche altre volte, come al signor Franco in California gli avevo regalato per il 140 la T250, capito? Anche se è andato a dire tante altre cose, ma comunque era così, perché mi aveva aiutato a trasloccare, non voleva niente, quindi gli ho regalato la T250, che dopo 6 mesi io sono andato a ricomprarmi la Gemagal di 250 euro, quindi però è così, se uno merita io ho sempre dato, tu non lo so, non ricordo. Ah, per questo già nei compagni, ho comprato un'altra Evaria. E che me ne comprare? No, ma si dice il nome, dai. Però a Marco gli ho mandato la foto. E mi ha attizzato forte, non ce l'avevo, mi è sempre piaciuta, non ce l'avevo, della Icom. Non ce l'avevo, mi è sempre piaciuta e ha detto ma sì, questa era buona, era un residuo di magazzino. Stavo una barca di soldi quando è uscita e quindi ho detto no, adesso ho visto questa offerta, me la sono presa, è della Icom comunque, è una bella grazia. Il Marco c'ha la foto, ma gli ha dato un Marco la foto. Sì, ma è la precedente, perché tu hai preso due radio nell'arco di poco tempo, no? E se non sto sbagliando, hai preso l'altra precedentemente, tipo 3 settimane fa, ma c'è fa. Sì, eravamo sotto Natale, beh, sono andato in provincia di Nuoro a prenderla, quella sono andato in persona, questa invece no, questa non l'hanno, spedita, sì. E vabbè, ma Gianni continua a dire che la macchina non mi basta, che dove ti faccio, però mi piaceva, l'ho presa. Signor Migliello C. No, io non dico quello, tu dici queste sono le ultime radio, io ogni volta ti dico sì, le ultime per adesso. A chi da qui passa la chita, no, mi sono andato a buttare un paletto. Lo so già, ma adesso basta davvero, dai. Ho preso nuovamente quota, c'ho anche di nuovo 140, figurati, adesso c'ho 430, 440, 140 di nuovo, avevo solo 440. Vabbè, tutte linee, tutte, no vabbè, le ultime che ho preso sono eccezionali, sono molto molto belle, però basta, dai, tanto già va bene così, è giusto per averle. Questo per averle, la mania di averli a buono ritratti, capito? Ehi, a Gianni ti ho mandato la foto, me? Ah, WhatsApp. Ehi, aia. Mamma mia, me, l'ha aperta, me. Freccette blu. Freccette blu, ah. Ho capito. Ho capito. Comunque WhatsApp è geniale proprio. Puoi stare in un piccolo gruppo di persone, puoi scrivere, puoi parlare, puoi mandare video, puoi mandare foto, puoi mandare collegamenti, link a pagine internet, è un bijou. È un buon sistema, infatti lo sto usando parecchio. benissimo anche nel... mi so caricare tutti gli app, mi so fare tutto, mi so fare tutto cosa che al computer invece è una tenuta. No, il telefonino mi sta impegnando di più, mi piace di più. Va bene, l'hai vista già? Ehi, è bella qua, bella veramente, una bella radio. Ehi, ogni tanto ci caschi, dai. Ma questa fuori l'hai presa? Sì, sì, sì, ho mandato un radioamatore di Viterbo. L'animatore di Viterbo, bella, nuova, anche la scatola, capito, l'animatore praticamente c'era un negozio prima, adesso sono rimasti un po' di radio e l'ho mandato, la scatola, c'è tutto, manuale e tutto, l'ho messa lì a mango, l'ho attaccato alla rotazione, ma l'antenna c'è, figurati tu, perché non c'ho più antenne da attaccare, però, importante averla, va bene. Ehi, ehi, si cadono degli stufi i giambi. Avanti, vado. Ehi, infatti, io quando Claudio dice, beh, questa è l'ultima radio, e io dico, fino alla prossima. Ehi, ma tu non dici come Gianni. No, come dice Gianni, mi è sfuggito. Mi ricordo già, Gianni dice sempre... una frase, se non mi ricordo, comunque, vabbè, la mania, e mettere i figurini, non ho mai la radio per me, sono, che palle, più ne hai più ne vuoi, che poi non li uso, non li uso, anche se ne ho tre però belle, belle toste, non sono tre giocattoli, sono tre KF, con quella lì sono quasi quattro, visto che quella lì è di media misura, diciamo, là, quanto è un 140, ma le altre sono grosse. E un po' ogni tanto le accendo anche stamattina, stavo ascoltando i 40 metri, però mi tutto spento. Spento anche il 30, il 430 e il 140, c'ho il 440 acceso adesso, il resto è tutto spento, tutto caput. Anche il grande, quello che hai visto tu, il volume basso, spento anche quello, non sto ascoltando manco il PMR, nulla, lascio a parte, non è Giuliano, mi fa un po' le 8:30, chiudo tutto, che alle 9:15 gioca la Juventus. Contro chi? Contro il Genoa. Ovviamente a pagamento, no? Il canale, no? Sì, sì, Marco, tutto Mediaset Premium. Adesso la prossima settimana vengono attivamente Sky. Faccio Mediaset Premium e Sky. Perché i film Mediaset Premium sono... In altro giorno ne hanno fatto uno nuovo. Avevano apparato al cinema. E... di c'era Massimo Boldi. L'ultimo che hanno dato, quello forse di Natale, quello di Natale hanno dato a Premium, Cinema Premium, però su Sky ce n'è molti di più di film, alla grande, e Premium lascio solo il calcio, faccio la disdetta del cinema, il cinema la guardo su Sky, tanto c'è la parabola centralizzata qua, capito? Così è tutta rugginosa, ma già funziona. Devono venire a attivarmelo perché c'ho già il cavo dentro, io c'ho tutto, c'è l'impianto centralizzato di Sky qua, che l'ha fatto Paolotto, non ha fatto mai manutenzione, ma comunque non c'è problema. Paolotto, mamma mia quanti anni, ero piccolo io, vedevo quel negozio lì in via Lamberto, stesso Maria. Certo, ha fatto tutto lui qua, antenne, ma sto parlando dell'80, l'ho consegnato nell'87 qua, nell'85 c'era lui, stato 2 anni, brava gli anni, facevano tutti gli impianti TV, tutto, è tutto centralizzato qua, anche il coso satellitare, tutto, c'è parabola in ogni scala, centralizzato, tutto pronto per gli allacci. Per fare l'allaccio, no? Ah, mica Paolotto ti fa l'allaccio a me. Ah, ma coccollo. Mamma mia. Che bello essere, abitare lontano dai parenti, avere una situazione economica buona, in modo da non dover sempre sarebbe una cosa bella, bellissima. Ce la stai sognando, capisco. Ma tu già la moto la stai più usando? No, non la uso più la moto. E Claudio col freddo scommetto nemmeno lui. Io la userei tutto l'anno. Tanto io solo la uso esclusivamente in città, poi sai c'è il parabrezza. Metto le gambe dietro lo scudo e bene o male mi abbiglio anche di conseguenza. Poi quella va piano, non è che non è una moto da correre questa. L'ho venduta a giugno la moto io. Io tutti i giorni, anche stamattina, se non piove io ci può essere vento, freddo, esco sempre in moto a fare le commissioni. Perché D'Amico cosa pensi che scendo in macchina? Andi ragazzi un parcheggio in Chivi. Scendo in moto io sempre. Ma tu attualmente stai usando moto o scooter, cosa stai usando Claudio? Tutte e due le uso, un po' una un po' l'altra, dipende. Comunque è vero, io le poche volte che sono andato al circolo non ho mai trovato parcheggio. Né proprio nella via, né in via 4, niente, niente, manco per le balle. Mi sono dovuto mettere in divieto, ogni tanto dovevo affacciarmi a guardare che non ci fosse due giri urbani. Ma infatti io uso la moto quando scendo da Nicco, ma anche la mattina, se è bella giornata, capito? Basta che non piova, che il terreno sia asciutto. Se la strada non è bagnata io esco in moto, sempre, anche avanti ieri, stamattina sono andato al mercatino in moto, capito? Con lo scooter perché l'altra non c'ha bauletto, e fare un po' di spesa, prendo un po' di frutta, dove parcheggi lì? Cioè in mezz'ora gli rendi? No. Quando vado al centro, in banca, se vado alla Piazza Italia io ho la banca intesa lì, tutte le operazioni le faccio qua, ma se mi serve chiamare a segni, se devo fare qualche operazione in particolare, vado, devo andare lì e ci devo andare per forza in moto, la moto non l'ho tenuta per quello, capito? Poi l'estate mi piace troppo, è macchina, soprattutto quest'estate, giubba, yeah, casco, occhiali, asciugamano sotto la sella e vamos! Hai capito Marco? Da giugno l'ho venduta la moto, già da 6 mesi. E come mai? La moto ci vuole sempre, magari piccola, anche un Beverly 250, sai quelle moto, una via di mezzo, né troppo potente né troppo blanda. Marco, due assicurazioni, 2 mesi appunto a tutti e 2 mesi, tutto doppio, capito? Non si può avere il parco macchine, dai, basta una macchina e via, neanche bucciamari. E noi proprio per quello avevamo mollato l'assicurazione moto. Purtroppo, diciamo che le assicurazioni per il colmo quasi si sovrapponevano, mi pare scadessero lo stesso mese, quindi quant'era? 221 l'una, 200 l'altra, insomma non fa. Adesso il problema è che se io la metto in moto, no la moto, se la metto in auge, bisogna vedere se la scadenza assicurazione poi possiamo pagare l'assicurazione. No, ma io non è che non la potevo pagare, solo che veniva in salita, anche perché scadevano tutti e due nello stesso periodo, quindi ti puoi immaginare, le dovevi mettere a parte la prima, insomma, capito? Un casino, ma poi la stavo usando poco, la usavo solo d'estate, non ne valeva la pena, perché la macchina ero tutta dolori, poi non facevi più andare in moto. Io oramai a una certa età, a me piace la moto, non ti credi, non mi piace, però tutti i dolori che ho addosso. Lo so, io sto diventando un paralitico invece, proprio sono male le ginocchia quando mi piego, non sto camminando niente, ma tanto non cammino, anche se mi dicono cammina, vai a piedi, infatti la maratona a Piazza Liceni come fanno molti, no? Che vanno piano piano, tipo a passo di maratona, niente, non lo farò mai, non lo faccio. E questo è il mio discapito, è perché so goduto anche lo sato, mamma mia, lasciamo perdere. Io fisicamente sono proprio a terra. Io perché non mi fido più andare a pescare sub, che poi più di 3-4 metri non facevo, seppure. dice che bisogna essere in perfette condizioni fisiche e psichiche per fare le mansioni. Io non sono in perfette condizioni né fisiche né psichiche. Aio Marco, datti una spronata che sei giovane così. Io alla tua età faccio le immersioni, ce ne devo anche a 15 metri, capito? Con fucile, piumi e quanto c'era. No, non mi piaceva, a me mi piace tuttora. Ho interrotto da quando mi sono incastrato nella luce, mi ha dato da pensare. Quello lì mi ha fatto spaventare davvero. Sono arrivato bianco bianco sulla spiaggia. Vedevo tutto girare, non capivo più un cacchio. Quella è una brutta esperienza. Claudio, sai a che era successo? Di rimanere incastrato con la caviglia in mezzo alle scoglie, un po' in profondità, a coso, il mio ex amico, capito? Beh, si era un bel spaventato. E quindi la madre gli aveva vietato assolutamente di andare a pesca sub, e lui andava di nascosto a pescare, capito, a fare immersioni. Io, dopo che è morto Guido Cini, non sono mai andato sott'acqua, ma andavo molto con la greffa dello judo Torres, ci trovavamo molto tutti assieme. Quando è morto Guido, io manco boccaglio più ho messo al mare, perché morto lì, eravamo lì, eravamo all'Argentiera, quindi morto lì, perciò a me pesca subacquea, niente da fare. Ma non è morto a Capocaccia Guido Cini? No, eravamo all'Argentiera, non a Capocaccia. Io mi ricordavo a Capocaccia. Guido Cini non era quello biondo con i capelli a caschetta? Sì, biondo biondo non era, no? Non era così biondo Guido. Forse tu stai confondendo con Cosio, con l'altro, quello che è morto a Capocaccia facendo sport lo stesso. Nel coro se faceva, no, non faceva judo, però era non ricordo. Sai che li conosco bene. Guido è il fratello di Paola. E manca il cognato del mio cognato, però era il cognato del mio cognato. Il fratello di mia moglie ha sposato con la sorella di Guido. E li conosco io da tanto tempo, proprio quando facevano judo lì a Sacro Cuore. Poi l'avevano trasferito, mi pare, al coso, come si chiama, sì. L'avevano trasferito su al come si chiama? No, quello era Canopoli, non Guido Cini, non era di Cini. Comunque poi l'avevano trasferito a Sacro Cuore, non mi ricordo dove. Piazza Fiume abbiamo iniziato, a Sacro Cuore io non c'ero, perché ero a Porto Torres con Aldo Fuis prima. Poi quando sono arrivato a Sassari mi sono iscritto nella palestra di Campo. Eravamo io, cioè quelli che conoscevo io, conoscevo io, era Guido Cini, Tiana Tola, Paola Cini, la greffa era quella, Leonardo Niedu, che è quello che c'è l'assicurazione, Gavino Cattari che lavora alla Banca Intesa, c'erano tanti, capito? Eravamo in Piazza Fiume. Eh sì, comunque c'era conosciuto. Era conosciuto, sì. Paola era una bella ragazza anche. Paola sì, era una bella ragazza, sì. Ma non è via di abitare a Tola. Poi c'era la Valentina Fregao, c'era la figlia Canopoli, e veniva di Greffa. Bei tempi, pesciughe. Bei tempi. 87 mi sono iscritto qua a Sassari, prima ero lì alla Colo Campo Porto Torres, c'era Navaldo, Aldo Fuis, Aldo, poi scendeva anche Canopoli una volta alla settimana, capito? C'era Silvano Provedo, Tino Bonomo, Gabino Caravagna, Carlo Caravagna, Giuseppe Giorgio, Domenico Fusco e Gavino Virdis, macellaio, bella squadretta anche quella. Allora fuis quello che abita la 167, grazie. Allora, impresario, era maestro di judo, quinto round. Aldo, è stato campione italiano, ha fatto. Non è riuscito a andare a fare eri mai stato nazionale italiano? Sì. Ricordo sempre, nazionale aveva perso con Mariolino Gamba, che poi è andato a fare le Olimpiadi di judo. Allora un mostro, allora bravissimo, ed è ancora molto bravo, solo penso che non stia, che la palestra non stia più funzionando, perché Aldo era un po' impegnato, si è ritirato, ultimamente stava allenando Mimmo Petruzzello, diventato nero anche lui, e le stava dando una mano, non so se la conosci, Antonella Piovanacci, anche Antonella è cintura nera. Ah sì, sì sì, ho capito. Vedi, questa cosa non la sapevo, sapevo che era un imprenditore, ma non sapevo che fosse maestro di judo. È come il calzolaio, quello che c'è via Indipendenza, quello lì è cintura nera di judo, io non, o di karate, forse karate. Io non mi sarei mai immaginato, l'ho visto facendo degli incontri, perché Marco faceva karate, no? E ha fatto degli incontri. Cazzo, cintura nera, bravissimo. Sì, era della maestra di Nino Piretta, che ho capito chi è. E di quelli della greffa mia siamo arrivati tutti a Marrone, tutti Marrone, perché poi siamo andati a Roma a fare interfase per nera e era successo un casino, eravamo usciti la notte, la mattina eravamo tutti fuori peso e ci avevano tutti eliminato. L'unico che non era uscito con noi era Stefano Ruggeri, che infatti è maestro, anche lui cintura nera. Stefano, siamo visti da poco e c'è la palestra a Sennuli. Purtroppo è così, lo sport se lo fai, lo fai bene, io l'ho fatto con molto entusiasmo e passione. Poi è cominciato a conoscere il coso, capito? La ragazza e le sigarette, uscivi il sabato, ero giuccio, boh, addio, non ce la fai più, capito? Perché io prima andavo a Portogia, non fumavo, non uscivo, ero più che lo facevo con molta attenzione con lo sport, che mi è sempre piaciuto, ho avuto grandi risultati, però poi o continui a farlo, se no ti rabbi l'ingomma e devo samare come ti dice Natalino, perché non ce la fai, capito? Non ce la fai, è anche pericoloso, perché secondo come cadi ti fai male e quindi devi essere preparato. E vabbè, sì Aldo, sì, Aldo è molto bravo, ma guarda che anche Gavino Virdi sì, era il più alto, il più grande che c'era in palestra di età, ed era anche quello che era blu, mi pare, noi eravamo tutti verdi, poi lui si è ritirato perché non stava più bene ed è arrivato a Marrone, e gli altri siamo arrivati lo stesso tutti a Marrone, tutta la greffa, tutti, bravo che è morto poverino, bravo, ma bravo veramente, che poteva essere a livelli di Aldo, era Maurizio Grassi. Non lo conosco, non so chi sia. Maurizio Grassi era il cognato di Roberto Boselli, figlio dell'armiere, non l'hai mai conosciuto Maurizio? Alto, in gamba, ben piazzato. Sì, capace di sì, infatti magari non so che si chiama così, ma magari lo conosco di vista. Marco, cosa ci racconti di bello? Se mi sto bloccando, ma sento un rumore da clave, sento... Questo? Non intendi cos'è? Mia figlia che ha fatto i capelli alla mamma, capito? Mi trova, sta bene, ha paura di andare alla parrucchiera, allora gliel'ha fatti qua a casa, glieli sta asciugando. E all'anima già proprio forte, non capivo cosa era. E mi sto un po' bloccando, io sport proprio, per carità. Mamma ha detto vai a nuoto per la schiena, da ragazzino, io no, non ci voglio andare. Sempre il solito imbecille, invece mi avrebbe fatto molto bene alla schiena, molto. Via voglia. Uno che ti allarga le spalle, c'è mio nipote che c'ha un paio di spalle facendo nuoto, allucinante, ti sviluppa tutti i muscoli. Via, anche la Pellegrini, hai visto ogni spalle quadrate che c'ha? Bella per una tipa così, si mette sotto. È un po' farfallina, Lo intendi io, c'ha solo le spalle. Ma se vedono un po' questa bestina qui è fea, no? È bella. Beh, va bene, non la vedo nemmeno brutta. Però che non si trucchi, perché quando si trucca che sembra una zoccola. Non mi piace a me, non mi piace. Assolutamente no, no, non è la mia tipa, credo anche di Gianni, no, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Io quando facevo sport, quindi sono sposato, avevo 27 anni, 27 mi ero già ritirato, a 27 anni io pesavo 65 kg neanche, 62-63, capito? 62-63, infatti facevo i 60 e 65 kg. Poi ho iniziato appunto a pappare e a bere e sono diventato cicciottello. No, adesso ho peso 80 e rimango così. 80 kg va più che bene. Anche Natalino mi ha fatto judo. È la cintura marrone, mi pare. Karate faceva judo. No, karate faceva. Non lo ricordo. No, ma con noi non me lo ricordo già. Non so, se era qua a Sassa non me lo ricordo. Io magari ero. Avevamo diversi, o non ci conoscevamo, non lo so. Allora, non me lo ricordo se era judo o karate che ha fatto Natalino. No, forse karate ha fatto. Quelli judo di Sassari me li ricordo tutti. C'era con noi, c'era anche Adriano Fantoni, che era il ragazzo di Fiorella. Di Fiorella, sì, non di Antonella, di Fiorella Sciuccio, che poi siamo stati assieme anche quando sono lasciati. C'ero io, la Master Classic, e era una bella graffetta comunque. Ma Leonardo Niedo, quello che c'è l'assicurazione via Milano, ad esempio, cintura marrone. Nessuno della greffa nostra ha passato nera, solo Stefano Ogege. Ascolta, il kata dove si fa? Nello judo o nel karate? Il kata si può fare in tutte e due le cose, perché il kata praticamente una semplice organizzazione di judoka, in questo caso di judo, che fanno una rappresentanza di tutte, ti fanno vedere praticamente tutte le mosse, quindi c'è una manifestazione. Allora si inizia col kata, tutti i judoka si mettono, si accoppiano e fanno vedere tutte davanti chiaramente ai maestri che ci sono alla giuria. Fanno vedere al pubblico tutte le mosse che si possono fare nello judo, ma anche nel karate, sempre un kata. Quindi farò vedere tutte le mosse mentre si accoppiano. Sì, accoppiati. Io vedo sempre il lato marino e ciosso delle cose. Perché ce l'hai fisso in testa. Tu ce l'hai proprio fisso, mamma mia, e accoppiare ti devi. Così dicevano i maestri, sì. Capito? Perché lo giro si fa in due, l'azura non lo puoi fare. Pugliere a te si può fare l'azura e anche lo giro. Allora, in quel caso, alla domanda di Gianni, il kata si può fare sia da una parte che dall'altra. Non so se è nel pugilato o in altri sport si chiama così, però nel karate, nello judo è sempre un kata, perché lo fai sempre sulla materassina, capito? No, perché io mi ricordo che Natalino aveva fatto il kata, quindi era per risalire al fatto se faceva karate o se faceva judo, perché avevamo anche un discorso con Marco e Marco diceva che Natalino aveva fatto judo, io mi ricordo karate. Comunque, no, judo, stava insistendo. Adesso voglio chiederle a Natalino. Qua, il kata si può fare, ti ripeto, in tutte e due le categorie, sia nel karate che nello judo, però che Natalino, ti ripeto, abbia fatto judo, non lo so, io ti rispondo in base a quella, alla tua domanda, però dille a Marco che il kata si può fare sia da una parte che dall'altra, perché è molto usato nello judo il kata, molto usato nello judo, perché è una cosa bella anche da vedere, perché ci sono tutte le mosse che i judoka ti fanno vedere. E poi c'è la rappresentativa, di solito il kata si faceva quando c'erano delle rappresentative a livello, per esempio al torneo Guido Sieni, mi ricordo, poi non si faceva più, però i primi tornei Guido Sieni che facevamo al Palazzo dello Sport, praticamente siccome c'erano molte nazioni anche estere all'inizio, poi è successo un patatrac perché il comune e la regione non dava più niente, quindi il padre di Guido si era stufato di anticipare i soldi, capito? E allora non ne fatto più, infatti non se ne è più parlato del trofeo Guido Sieni. E si faceva proprio il cattà per far vedere a tutto il pubblico le varie cose che lo judo sviluppava in quel contesto, con tutte le rappresentative, sia le rappresentative sarde, italiane ed estere, capito? Io ne ho partecipato tanti di questi incontri, perché andavo con l'ambulanza, eravamo diciamo. Il medico con noi, i volontari che assistevano, magari qualcuno si cadeva male, eccetera, eccetera. Forse è obbligatorio, ma stai scherzando. Su Guidocini c'era il medico fisso, il medico, c'era l'ambulanza, c'era tutto. Grandissime manifestazioni. Io quando mi sono ritirato, che il trofeo Guidocini, forse l'ultimo, ero al tabellone, segnavo i punti dei giudocchi, che fare segni, poi non li hanno più fatto, perché il padre di Guido si era stufato, era successo un patatrac con la regione e col comune, si parlava addirittura di manomissione, di eccetera, squadre a livello nazionale che non venivano più perché prima avevano tutto pagato, diciamo, come alloggio, perché era si iniziava il venerdì, sabato e la domenica c'erano poi le finali, capito, quindi non sono più venuti, non c'è più venuto nessuno ed è andato tutto a schifo. Una grandissima manifestazione che è arrivata a livello internazionale. Sì, ve lo ricordo, andavamo noi praticamente da una caduta in una mossa, una ragazza è svenuta e la si stava riprendendo, l'ho soccorsa io e un mio collega, ma più io che l'abbiamo rianimata, e vabbè, aveva preso un colpo forte alla schiena sicuramente, sai com'è, quando vedi questi colpi forti svini, vabbè, l'abbiamo fatta riprendere subito, c'è stato poco a riprendersi. Esatto, e ci facevamo, sì. Era Leonardo, era, per carità, Leonardo Nietta, uiuiui, ora rinuncio a cattare, mamma mia. Vabbè, fai la zia, vabbè, perché poi i primi trofei di serie avevamo una grande squadra, c'era la squadra di Sosso che erano favolosi, Porto Torres, Sassari che era una bella squadra, perché ne sono usciti molto molto molto bravi, che sono quasi tutti maestri. Quelli che ha allenato Canopoli si hanno continuato, come Stefano, come tanti altri, ne sono usciti grandi maestri. Ma a livello internazionale va a dire un bel, perché ti poteva capitare, purtroppo il trofeo di Vicini era a livello internazionale, quindi c'erano squadre, c'era un anno era arrivato anche il Giappone, e quindi grandi professionisti, grandi judoka a livello mondiale. Se vuoi dire a Beffa, lo dio me, io sono tocca a te, no, tocca a te, io sono già, ma da lì all'armi, quello ti fa saltare, infatti. Ogni anno, o vincevano i giapponesi, o vincevano gli inglesi, o vincevano i tedeschi, noi ci piacevamo sempre o secondi o terzi, mai ne avevamo vinto uno i trofei Guidocini. Io me lo ricordo, Claudio, come se fosse oggi, uscivano con la bandierina, tutti quanti in fila, Cina, Giappone, e sto dicendo che io ho partecipato a tutte le manifestazioni, perché ce l'avevo io quel tipo di servizio lì. Già, Gemella Donaggio sarà un cinese a Roma, ricordo sempre, a Palazzetto lì che c'è forse, ma si usa, come ti siamo entrato, abbiamo fatto il saluto, No, ho detto, dice me, ma non la gentilizio manco nulla, mi gioco qui che vorrei in aria a Barì un pezzone. Vabbè, loro sono, ce l'hanno proprio nel sangue, qua. Quando sono piccoli, gli altri marziali li imparano. Gli insegnano gli altri marziali proprio da piccolini. Gianni mio sembravo Icaro, uccello sembravo. Io ho fatto un volo di altri 2 metri. E mi sono aperto, però, ho steso le braccia, tutum, a terra. E gli dice il maestro, i pom, sono le maligne. E gli ho detto, fatta è. Fuori alle balle, via, meno uno. Oh, yeah. E bei tempi, cari. Bei tempi, tutte quelle manifestazioni, cazzo quanti servizi ci avevamo allora. Non qua, capitava che magari un'ambulanza era lì, l'altra ambulanza era a cosa ottava, allora c'erano i go-kart, ti ricordi i go-kart? Io quanto mi divertivo lì al cartodromo di ottava. C'era intestata quello che è morto, aiutami, Francolino, è morto, era morto lì prima della salita di Monte Oro. Ah, boh, io mi ricordo solo una cosa, che eravamo col dottor Carta e c'era il figlio che gareggiava con i 125. Praticamente questa macchina gli è passata sopra. Il dottor Carta diceva sempre, se succede qualche incidente ragazzi, non andate in mezzo alla pista, aspettate che blocchino tutto prima. Vabbè, cazzo, ho visto il figlio, ci si era fatto in mezzo alla pista per primo lui. Era fratturato, ma non è che ci aveva niente di cosa, l'abbiamo portato noi in ambulanza. Dottor, lei ha sbagliato in questo momento, lo sa. Lei ha detto, sì, non so Gianni, ma ve l'ho sempre raccomandato a voi, ve l'ho fatto io. Francolino Meloni era anche stato, Francolino Meloni, bravissimo Francolino, ho conosciuto. Con la moto c'era entrato sotto lì, prima salì a Monte Oro. Proprio dove è morto, un po' prima, dove c'era 8A, invece il figlio di Coso, di aiutami, come si chiama, il camionista, l'ho detto l'altro giorno, Ivan, porca miseria, Nino, manca, no, Nino, figlio di Nino, di, vabbè, sono andato a Monte Oro, era morto comunque, ma Franco con la moto era dietro un camion a Frado di Gotta, è entrato sotto. E non te lo ricordi il giorno che abbiamo deciso di andarci a fare il giro del moto, che ci è scappato il morto sulla Budi, te lo ricordi? Ehi, che c'è? Che coglione, c'era il trico, era la Budimu di bloccata laggiù, noi eravamo tutti in moto, io, tu, Franco, Natalino, c'era, poi c'è anche Tino con quella moto grossa che ci aveva, con l'RSI mi sembra, eravamo un bel giorno, e noi, adesso dove passiamo, e fate il giro dall'altra parte, ma scusi, ma non possiamo passare, se, e cosa fa Sanguido, ha detto, sopra il morto. L'RR ci aveva. Ehi, bella quella giornata, non ci siamo divertiti, che bello, tu ancora c'avevi il 250, no? No, il 150, il cosa avevo, ma, e vabbè, c'avevo Suzuki 150 allora, quello col marmittone, con la marmitta, non mi ricordo che cacchio di marmitta era, ma di quelle praticamente rumorose. Io c'avevo l'Hornet, o l'Ultimax avevo, Arrof, la marmitta. Ehi, io non ricordo il tuo, camminava. Cosa c'avevo io? L'Hornet, l'Ultimax avevo. No, non c'avevo l'Ultimax, c'avevi forse l'Hornet. E poi Dino l'ha dato. No, avevi lo scooterone, quello. Quello scooterone che avete preso insieme a Franco. Lui ci aveva preso quello schibo. Lui ci aveva lo schibo. Ah, lui aveva preso il 500, a me aveva dato il 250. Sì, io avevo quello lì. L'avevo dato a Tino, Tino mi aveva dato l'RSI. Poi invece la seconda volta siamo usciti, eravamo col. Io avevo l'Hornet e Franco aveva il T-Max. Sì. Ma il giorno, porca miseria, ti ricordi, avevamo fatto il giro e non ci avevano fatto avvicinare. Era in mezzo alla strada praticamente. Si era scutto, una macchina forse aveva tagliato la strada lì uscendo, vicino a Graziella era successo. Poco prima, in quel vicolo che entra. No, la tipa praticamente era anche incinta, la tipa che guidava la macchina, non te lo ricordi? C'era la tipa incinta. Ha detto che praticamente lì ha frenato, ma se l'ha visto di fronte, proprio l'ha preso al paraurti. Asciuga, mamma mia. Mamma mia, Branca, figlio di Nino Branca, è quello che era morto lì salendo a Cosa Monteoro, sulla sinistra, proprio dove c'è l'incrocio per entrare lì alla zona industriale lì, cosa c'è, dove c'è Coso, non so se c'è ancora, la Gazzosa, lì era morto, figlio di Nino Branca. Massimo e Franco Meloni invece la moto, dove c'è l'auto A, proprio più avanti, la moto, io quando esco ti giuro passeggio, non ve ne più attacchi epilettici, no, io passeggio un girettino e basta, è arrivato a posto, capito? Perché ne abbiamo visto anche tu, ne abbiamo visto tutti i colori, quindi è un casino, ma penso ancora per quest'anno, poi basta, però lo scooterino per fare le commissioni, boh, molto basta, perché poi alla fine tanto non ne vale più la pena. E anche per quello me l'ho venuta, non faccio altro che al televisore sentire molto quello in scooter, molto quello in moto. Tutte le cose di estate poi specialmente ti crepano, magari vai piano tu e ti cazzi che c'è anche manca, ti sicuri alla ridu, e quando ti si sbattono a me mi hanno tamponato mi muoio. Ma sai dove? La rotatoria che c'è di fronte al ponte che c'è davanti al chilometro, ce l'hai presente, il ponte che c'è per andare via Pasqua. Io ero tranquillo, ho rallentato perché c'era una macchina che stava passando ed ero con Marcolino, ma questa tipa ragazzi sotto la frenata, boom, mi ha colto un colpo, meno male che era di gomma, la parte di dietro non si è fatta niente. Ma c'era Marco e mi sono girato male, ho detto ah signora dove cavolo sta andando, c'è un ragazzo sopra la moto, cavolo le fa male, non è tanto per me ma per lui, e non so, mi sono distratta un attimo, ma la distrazione può costare cara, bisogna stare attenti quando si guida la macchina, ragazzi. Ogni a goi, bisogna stare attenti, poi io me l'avevo venduta addirittura, l'ora te l'avevo venduta, te l'ho propenso a non comprarne più di moto. Poi me l'ho convinto Franco, c'era T-Max, io avrei preso, è capitata l'occasione ma avrei preso T-Max. L'avevo propenso a non prenderne più perché il giorno che è morto Giuseppe Pinna, quello che alla pizzeria giù proprio via Pirandello, attaccato all'ufficio mio cognato, della TLC, io il giorno loro erano tutti in piazza dei Segni. Ma sono state di domenica mattina, sono state le 8:30, 9:20, io d'estate ho preso la moto come facevo sempre per me caffè per stare scendi, ero col giubbottino già preparato perché poi da lì facevo sempre una passeggiatina verso Platamona, Porto Torres eccetera, e proprio Giuseppe mi ha detto io vado bene, 70 anni bravissimo pilota di moto, 70 anni Giuseppe quando è morto, 70 anni. Ho detto no, non ho voglia, io mi stiamo andando a Bosa, sono stati un 5-6, tutti con le moto grosse. E Giuseppe ci aveva il Kawasaki Ninja, ma lo portava, portava bene, nonostante l'età lo portava bene, tranquillo e sereno. Non erano bello in tutto, attivali, bello attrezzato, bello anche perché uno che stava bene, quindi se lo poteva permettere. Io invece avevo sempre il giubbottino, che l'ho comprato lì da Rantello, e basta il casco integrale, eccetera. Lui è sempre ben piazzato. Sta fatto per tirare la breve, ho detto no, non ci vengo, eccetera. Ciao, vai, caldo voi, basta che fanno in pizzeria, ci mettiamo d'accordo in scimmo. Ehi, vabbè. No, adesso hanno attaccato il bimbi, va. La centrifuga, dove siamo adesso, chi è? Esce Maria Gara, mio gasino. E quindi, aspetta, tiro la porta. Quindi niente, beh Gianni, andati sono, tutti assieme, e niente, ciao, mezzogiorno, mi ricordo sempre l'orario, mezzogiorno 10, mezzogiorno 15, mi ha telefonato un un amico, piangendo. Non sai cosa è successo, non sai cosa è successo. Dimmi cosa è successo. Giuseppe è morto, Giuseppe è morto. Ma Giuseppe Galli, dicevo io. Giuseppe pizzaiolo, volevo sapere. Giuseppe Pino è morto. Se l'ho visto, cazzo, 4 ore fa, gli ho detto. Piazza dei Segni, eia, nella strada di Bosa, morto, una macchina gli ha tagliato la strada, si è entrato sotto il guardarail, morto di sanguato, gli ha aperto tutta la gamba. Già lo conoscevo, in baffetti bianchi, me lo ricordo come se fosse oggi. Bravissimo, baffettini suoi bianchi, qua c'ho davanti. Ah, gli ho detto no, non può essere. Non può essere più. Boh, ma gli ultimi morto non li voglio più. Infatti me l'avevo venduta e basta, sono rimasto un'estate, un anno che non ce l'avevo morto. Un anno ce l'avevo, infatti passava sempre Franco a prendere, un po' guidavo io, un po' guidava lui, sempre in due, che alla fine ho detto vabbè, sono andato lì a Donatello, me l'avevo comprato. Ma l'ho preso il Maxi. Ma per dirti Gianni che ne ho sentito e viste, se il giorno c'ero io, guarda, ci sarei rimasto anche io lì perché sarei morto dal dispiacere, era troppo in gamba Giuseppe, troppo, una persona veramente in gamba. E vabbè. Ma vabbè, le 9:10 sono, io ti saluto perché è pronta la cena, ok? Ci sentiamo domani, dai, saluto tutti quelli che sono all'ascolto. A domani già. Ciao Claudio, ciao anche a Marco, adesso che neanche devo portare giù il carro. No, dizionario oggi non me la sento proprio, ho fatto le favette, ce le ho sullo stomaco, non so perché non le ho digerite bene. E quindi preferisco, può darsi che sia l'aglio, non lo so, preferisco non cenare stasera. Mi bevo un po' di latte e chiudo così mi toglie il bruciore. Andate, ci sentiamo, buonanotte. Ciao, siamo un po' di bicarbonato con limone, ok? Ciao, ci sentiamo domani, ciao a tutti. Ciao Marco. Ehi, ciao, scusate che sto iniziando a pulire le tazzine e macchine del caffè. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, ciao.